Siete dei piccoli cialtroni che con l'inganno cercate di farvi scoperchiare delle inutili pentole dentro le quali c'è un brodo che conosciamo benissimo. Quindi non rompeteci le scatole con questa sagacia che io trovo detestabile. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Frischi e cannarine, un bello gelatino, tu però non vuoi cuppetta, né un spumone, né un sorbetto, ma una specie di ghiacciolo che in un tubo di sostanza. Sono disgustata e indegna nei confronti di questa magistratura malata. Se questa è giustizia, sinceramente io non ci sto, e scendo in piazza per manifestarlo. Fino a che non te. Beh, forse la signora Pascale, che comunque combatteva come una leonessa in piazza ieri, a Piazza Farnese, voleva dire indignata, non indegna. Sono disgustata e indignata. Perché non si dice sono indegna. Sì, si dice sono indegna, però non voleva dire questo. Signora Pascale, no a Marina in politica, con un piccolo errore. Sentiamo. Secondo lei Maria Berlusconi di esserlo, fare un passo in politica in questo momento? Se lo farebbe non farebbe un errore, ma non credo che il padre sia così d'accordo, visto e considerato quello che è successo a lui quando è sceso in campo, perché Silvio Berlusconi sembra, a quanto pare, fino al prima del 94 era un uomo praticamente impeccabile. Dal momento in cui è sceso in campo è stato vessato dalla magistratura italiana. Se lo farebbe, signora Pascale, però non è richiesto alla signora Pascale, come dire, no Parenzo? No, non le si chiede di parlare con un linguaggio da Accademia della Crusca, e io non cadrò nel tranello. No, perdonala, fai un perdono ufficiale, papale. No, diciamo. La perdono e l'abbraccio, non cado nel tuo tranello berlusconiano. Qual è il tranello berlusconiano? Qual è? Il tuo tranello berlusconiano è di farmi passare come un cerbero comunista che attacca la povera Pascale sull'uso della lingua. Ma no, io non ti volevo far passare affatto come questo. Spero... Non ci casco in questa maschera che mi attacchi di cerbero comunista, che dice guarda che non sa l'italiano, lo snob comunista. No, non casco nel tranello, caro il mio Berlusconino. No. Il mio posto è accanto a lui. Dove ha aspettato la sentenza ieri? Accanto a lui, dov'è il mio posto? Almeno per il momento. Poi senti la domanda che gli ha fatto una giornalista, collega, odio questo termine. Ma lei si sente una puttana? Ma io dico, adesso va bene tutto, noi facciamo anche di peggio, però lo facciamo in un altro contesto, non è che andiamo lì con la faccia seriosa, col microfono. Ma scusi, lei si sente una puttana? Scusi, si sente qual è la sua domanda, signora? Si sente una puttana? Non mi sento una puttana, lei si sente una puttana? Sono io che faccio le domande. Lei, no, io posso fare quante domande voglio a lei. Perché? Lei si sente una puttana, signora? Sono io che faccio le domande. Si sente una puttana? Siamo tutte puttane? Lei si sente una puttana, io non mi sento. E Ruby è una puttana? Io, assolutamente no, assolutamente no. Perché? Lei, per lei le puttane chi sono? Chi sono le puttane? Me lo dica. Si vergogni. Vabbè, forse però si riferiva al titolo della manifestazione di Ferrara, certo. Sì, però comunque no, ma poi la domanda è legittima, perché il tema è legittima, uno si avvicina a uno e dice ti senti una puttana? Ma mi sembra legittima, il tema è quello, no? Siamo tutte puttane, diceva, declamava l'invito in piazza. È legittimo girarlo alle persone che hanno aderito a quella manifestazione, ma l'abbiamo chiesto anche noi ieri. Beh, poi ci sono delle follie, tipo la Presti Giacomo, una sentenza fascista, senti. Noi non accetteremo mai che il nostro leader Silvio Berlusconi, che rappresenta milioni di voti, venga espulso dalla vita politica attraverso una sentenza ideologica e di stampo fascista. Crozza, Alfano gli ha detto tieni duro. Beh, questo è facile però, su Alfano che gli ha detto tieni duro. 7 anni, tra l'altro ragazzi non sanno più nemmeno come confortarlo. Come lo conforti? Ieri Alfano gli ha detto tieni duro. Ma come tieni duro? Angelino, a lui non puoi dire tieni duro. Così non lo aiuti, Angelino, non lo aiuti. Comunque in tutto questo si staglia, appare un governo della barzelletta, un governo da ridere del tuo amico Enrico Letta, un governo tutto da ridere alla Totò. C'è la sospensione e il rinvio su tutto. L'IMU entro agosto. L'IVA rinvio non si sa quando. Gli F-35 forse verranno sospesi, forse verranno sospesi, c'è una riflessione sugli F-35 con questa cosa ridicola che bisogna togliere i soldi dagli F-35 per spenderli negli asili, una cosa patetica, ridicola. Beh, da ma una roba da ma nemmeno da quinta elementare, guarda, cioè nemmeno da quinta elementare, nemmeno ma la gente nemmeno alla quinta elementare dicono una cosa di questo tipo. Alla quinta elementare dicono no, beh, però sono due cose diverse. No, invece qua si dice, qualcuno dice togliamo i soldi da lì e mettiamoli negli asili. E poi sta cosa ridicola che vogliono mettere una tassa, cioè aumentare l'anticipo dell'IRPEF per togliere un'altra tassa, cioè una cosa pazzesca, no, ma pazzesca. Ma questa roba degli F-35 invece meriterebbe una sì, riflessione. Ma non c'è nessun approfondimento, quello che ho detto è quello che ho detto, non c'è nessun approfondimento da fare. Perché hai detto come solito una cosa superficiale, come avrò detto superficiale, una cosa superficiale, secondo me è una cosa superficiale quelli che dicono superficiale. Se tu chiedi a chiunque per strada, a chiunque, anche quei camionisti che ti piace tanto fare intervenire alle volte, sì, questi signori che chiamano, che i camionisti che fai passare come fossero il cavo della Grabeschi, la situazione. Sì, però vai veloce, ma su. Se, se chiedessi a questi se preferissero avere più asili funzionanti o F-35, sì, perciò di buon senso ti dicono sicuramente bravo, fai un applauso, facciamo un applauso, in un momento come un questo cazzo. Ecco, poi abbiamo notizie clamorose sui politici ma a scrocco, se parla vuol dire che non è sbagliato, stai però zitto, politici a scrocco, abbiamo notizie clamorose su persone che sono andate alla Valtour, pagati dalla Valtour, vacanze anche al 100% pagate, abbiamo questo nomi, è molto grave, nomi e cifre, ma molto grave, dipende naturalmente. Beh no, non dipende un cazzo, questo è molto grave. Mentre, come sapete, la Corte Suprema Americana dà il via libera, anche se la questione è molto più complessa, alle nozze gay, e in Italia qualcuno protesta ovviamente, è con noi Marina Ripa di Meana, buonasera. Buonasera carissimo, come stai? Bene, come stai tu? L'altra volta te ne sei andata perché ti ho chiesto di sesso, non mi ricordo che è successo. Che mi hai chiesto? T'avevo chiesto di, abbiamo parlato di sesso, di che abbiamo parlato l'ultima volta che sei stata con noi? Non mi ricordo. No, è per questo me ne sono andata, lo vedo un po' improbabile. No, no, ti sei un po' arrabbiata. Era lì alla manifestazione. Ah, ieri era la manifestazione, sì, come no, certo, anche tu alla manifestazione di Ferrara. Certo, naturalmente. Perché ti senti, beh, come naturalmente? Perché ti senti un po' puttana pure tu? Ma guarda, io non ho niente contro le puttane, perché no, sono delle donne che anche loro hanno fatto la loro parte. Diciamo che mi sono sentita oggi, magari sono, c'ho una certa, come si dice, però sì, sono stata una donna notevolmente libertina nella vita. Puttana è un po' più già, rientra nella categoria di quelle che lo fanno il meretricio, che si fanno anche pagare. E tu non ti sei mai fatta pagare? No, per la verità ho sempre pagato io. Come hai pagato tu? Spiegami, no? Sì, interessante. Ho sempre pagato io. Cioè, quale hai pagato gigolò, giovani? Ho pagato, no, gigolò, ho pagato nella vita quelli che mi, le persone che sono sempre stata quella che ha pagato, che ti devo, cioè, dire? Cioè, quando uscivi con gli uomini pagavi, dici tu? Beh, no, quando uscivo, nella vita, in generale, i miei rapporti di amore sono anche messo anche del denaro. Del denaro, vabbè, questo è interessante questa cosa, cioè ribalta un po' tutti i luoghi comuni, sì, no? Sì, sì, per cui proprio se vogliamo intendere puttana in quel termine, però molto libertina, si sa, l'ho raccontato. Vabbè, quello si sa, è ovvio, ecco, ma tu queste ragazze che vanno da Berlusconi, lui organizzava le cene, eccetera, come le definiresti? Puttane, prostitute? Io, guarda, quando parlo di le puttana, le definirei delle ragazze giovani, sì, che si vogliono divertire e che arrotondano e prendono delle scorciatoie. Non starei a dire per questo che sono a puntare il dito contro di loro o a dare delle condanne. Nella vita ognuno fa quello che porco gli pare e non starei lì a condannare perché prendono delle scorciatoie nella vita, cosa più che comune, più che normale, che c'è dappertutto, e non è lì a, per questo a dire che sono delle puttane. Anche se però la parola puttane, anche se la parola puttane, uno perché la intende in senso negativo, cioè puttana, puttana dicendolo così, in realtà quando uno sì, è vero, ogni tanto faccio la puttana, mi faccio pagare per fare sesso, qual è il problema? Ma lo devono dire loro di se stessi. Se uno di se stesse dice io sono una puttana, va benissimo, io posso dire di me stessa sono una gran mignotta, sono una gran puttana, ma non vorrei che gli altri mi puntassero il dito e mi dicessero puttana, perché se succedesse questo, come minimo gli darei un calcio nel sedere. Hai capito, Parenzo, tu che fai? No, dico alla signora Ripa di Miana, ma cioè, ognuno si può definire come gli pare, cioè se ti piace così, benissimo, evviva! Ma questo qua, ma che banalità è? Ma lo sappiamo, ognuno si definisce come gli pare. Il ragionamento è un altro. Dice, quando uno dice a queste qua che sono delle prostitute, sono delle puttane. Ecco, questo è il ma punto. Ma non è vero questo. Sono delle ragazze che hanno preso delle scorciatoie. Ecco, questa è l'ipocrisia di Marina Ripa di Meana. Ma nessuna ipocrisia, mio caro. Siete voi che siete dei persone che guardate dal buco della serratura e vi scandalizzate. Il mondo è sempre andato avanti con ragazze che prendono delle scorciatoie, e non per questo Berlusconi deve essere condannato a 7 anni di galera. Vabbè, quella è un'altra cosa, però. C'è la concussione, c'è anche la prostituzione minorile. Ecco, secondo lei... al di là delle questioni giudiziarie, ovviamente, ma se fosse andato con Ruby minorenne, avesse fatto sarebbe un problema, secondo lei? Scusa, ti sembrava una minorenne come si presentava? Non mi sembrava, a me mi sembrava una donna di oltre 30 anni. Non è che proprio dava l'impressione di una povera mammoletta. Beh, però sa, le leggi, cioè tu devono fissare dei paletti. Ma le leggi sono quelle che sono, sarà anche una leggerezza, sarà anche una cosa effettivamente non proprio ortodossa, ma da qui a dare 7 anni e l'interdizione agli pubblici uffici, sì, mi pare una cosa un po' esagerata. Poi c'è la telefonata, vabbè. Comunque, abbiamo il traffico, torniamo subito. Marina Ripa di Mena scatenatissima. La Zanzara. Mi fa notare il meraviglioso non leggerlo, il mio amico del blog non leggerlo, che in realtà il problema di Berlusconi è che c'è una prostituta, ma lo dico senza accentuare o senza dare giudizi sul termine prostituta, che è una cosa nobilissima, secondo me dovrebbe essere legalizzata la prostituzione, che però quando una prostituta brasiliana di nome Conceição dos Santos Oliveira Mitchell ha sul suo numero di cellulare un iPhone con una scheda TIM, secondo carte della Procura della Repubblica, questo nome, Papi, questo nella rubrica telefonica, Papi Silvio Berlusconi, così scritto, Papi Silvio Berlusconi, 335/431 eccetera eccetera, e poi Casa Roma Silvio, forse qualche problemino così di... No, sì, ma non c'entra niente come al solito, come dici tu, Parenzo, con le questioni penali. No, penali. Di questo ne abbiamo già parlato, non mi interessa tornare su... Allora, signora Ripa di Meana, si parla di Marina Berlusconi come possibile erede, anche se lei smentisce, erede di Berlusconi. Lei che dice? Ma io questo non ne so più di tanto, comunque... Non gliene frega niente. Penso che sia potrebbe essere una degna erede, perché sappiamo che è una donna molto in gamba. Adesso non so se sia addirittura all'altezza di sostituire il padre, però... E dobbiamo vedere anche che Berlusconi quando è arrivato non era così preparato e così insomma, cioè è cazzuta secondo lei come padre? Una c'è stato all'inizio anche da parte Berlusconi, e strada facendo è andato sempre migliorando, per cui anche la Marina probabilmente arrivando fresca, visto che parte già da tanta storia sua di impresa, d'impresa cioè... probabilmente potrebbe essere una degnissima sostituta. Erede, anche Brunetta oggi ha parlato, anche se Brunetta oggi ha detto non bisogna fare la dinastia eccetera. La Santanchè invece, lei che dice? Signora Santanchè, che dice la Santanchè? No, che dice della Santanchè? Molti la vedono come nuovo leader del partito, no? Del PD. Io non la vedo all'altezza, non della vede, La vedo poco più che una segretaria d'azienda, per la verità. La segretaria, la signora Ripa di Meana, come? È deputato, una delle più ascoltate da Berlusconi, sembra. Insomma, ognuno la dice, vede. No, ma lei fa bene a dirlo, per carità. È una donna che si dà da fare, sgomita molto, ma insomma la preparazione e come si presenta e com'è, quella che è. Insomma, come si veste, bravo, secondo lei? Come si veste? Eh? Come si veste? Ma io non voglio far commenti, non andiamo sul personal. No, come, andiamo sempre sul personal. Ma no, non andiamo sul personal, è una donna che ha la statura e la preparazione di una segretaria d'azienda, un lessico veloce, ma che posso dire, non è certo Berlusconi. Vabbè, ecco, quello che... sicuro, quello sicuro. Non è ma né brunetta, né tanto, insomma. Scarsa, scarsina, su, scarsina. Mezza calza. Una mezza calza, una mezza calzetta, capito Parenzo? Mezza calzetta, si può dire, eh? Davide, sei sparito? Vabbè. No, sono qui, benissimo. Stavo chiedendo una cosa alla signora Ripa di Meana che mi stupisce molto. Ma da quando è che è diventata così innamorata del cavaliere? Io, per la verità, non sono affatto innamorata, anzi, per certi versi sono anche molto critica del cavaliere, però trovo che dare 7 anni a una persona che, sì, quello si è limitata ad avere una vita estremamente con molto libertina, può essere libertina, mi sembra, e levarla dai pubblici dalla possibilità di potersi, sì, esprimere a vita, questo mi fa orrore, trovo che sia una sentenza veramente oscurantista, trovo tutto questo orribile e pericoloso per il nostro paese. Tanto, senta, più, ma secondo lei, una domanda fondamentale, ma secondo lei la signora Santanchè, perché lei dice di no, ma lei che è esperta in questo campo, si è un po' ritoccata ogni tanto, la vede ritoccata? Aspetta, non andiamo nel personal, gli ho detto, è poco più di una segretaria d'azienda, troppo affatto, è una donna molto con un aspetto che è quello che è, la ma vedo quello molto che è mostrò, eh? Mostrò un aspetto come? Che c'ha? È quello che è, la vede quello che è, non è, non possiamo parlare, parliamo della Santa, perché dare importanza a una donna che secondo me non sprecherei due parole. Beh, vabbè, ma sa, conta oggi nella comunicazione, nella politica. È peccato che conti, perché l'ha fatta contare voi, perché vi piace a voi, a me, per me è una che non spendo due parole. Addirittura, che gli, no, ha fatto? Una cosa niente pazzesca. Mi ha fatto, proprio non la vedo. Non la vede proprio, quando, no, quando parla per lei è nulla, assoluto. È una brava un assistente si dà da fare, è molto fida, è molto legata e fidata a Berlusconi, ma non è interessante, non è interessante. Oggi la politica purtroppo è retta da mezze calze, sono poche le persone che escono fuori da questo che sono a delle punte notevoli, sì. Una di queste nel bene e nel male è Berlusconi. Senta, tutta ma l'altra è buffa. Lei che ha conosciuto bene Craxi, da puffa, lo lei capisce, che ha conosciuto bene Craxi, ma Berlusconi può finire come Craxi? Beh, questa è una domanda che viene fatta continuamente, io spero proprio di no, vero? Perché sarebbe un'ennesima dimostrazione di in che paese stiamo vivendo, ecco. No, d'accordo, ma c'è questo timore, lei vede una parabola di questo tipo? Perché oggi si parlava addirittura in qualche articolo di Berlusconi pronto ad andare in Sudafrica. No, guardi, Berlusconi non credo che sia che succeda sempre, per quelle volte che io, non è che sono intima di Berlusconi, ma le volte che abbiamo parlato, ho sentito Berlusconi, sì, lui ha sempre criticato e trovato estremamente pericolosa quella sortita di Craxi di andarsene via in Tunisia, e ha sempre sostenuto che non doveva andare via, non doveva andare via, se non fosse andata in Tunisia sarebbe ancora viva, ecco. Per cui non credo che sia di male. Comunque la trovo ancora, nonostante tutto, ieri ho visto l'immagine di una molto attraente, devo dire la verità, lei la trova nonostante tutto, lei nonostante dice tutto, lei dice che ha tirato i remi in barca, ormai è fuori, io invece la trovo, sì, non è quello, non sono quello, io... il problema, non, perché dobbiamo parlare del personale, ma è sempre per la vita, il pubblico non esiste, il pubblico e privato ormai sono mischiati, è tutto insieme, non si, vabbè, può distinguere, faccio un po' lei, mi non si può distinguere, l'accetto volentieri, lo faccio un complimento, ma lei fa ancora sesso per caso? Ma senta, ecco la domanda che mi già ho fatto altre volte, ma lei che cazzo gliene frega? Ma perché mi interessa il privato delle persone? Lei mette tutto, no, mette tutto, scusi, in pubblico, ma mette, scusa, tutto in pubblico. Scusa l'espressione non proprio molto signorile, ma qui è permesso tutto, qui è permesso tutto, è permesso, no, tutto. Parenzo, no, che fai? Sei ammutolito? Perché sei così moderato? Cosa ti è successo? Coglioni, non sono ammutolito di niente, stavo provando a intervenire, sembra che non c'è Sgarbi che mi chiama. Sono in trasmissione, Vittorio, c'ho il telefonino. Volevo che squilla di Sgarbi. Che Diana. Cosa vuoi vuole ricordare? La storia del piscio a Sgarbi, cosa vuole ricordare? Mi dica Maria. Beh, l'abbiamo ricordata tante volte, ormai mi sembra che possiamo passare oltre. Possiamo passare oltre sicuramente. Ma perché tutte queste donne si affollano intorno a Berlusconi? Queste ragazze, perché partecipano alla fine? Alla fine per avere i quattrini, questa è la realtà, per avere del denaro e per lavorare, e questo è legittimo. Guardi, lo dica, siamo... è legittimo. Senta, la cosa è questa, siamo in periodo di estrema crisi, il lavoro non si trova, c'è un signore ricco, generoso che la dice. È chiaro che ci sono delle giovani ragazze che prendono delle scorciatoie. Oh. Da qui a dire che sono delle infami, delle mignotte, delle cose, insomma, mi pare un po' esagerato. Ragazze tirano le scorciatoie e poi domani con due quattrini in tasca forse possono anche andare alla Sorbonne e studiare, da avere delle uscite meravigliose nella vita. Benissimo, benissimo. Pubblicità e giornale radio. Scusami, La Zanzara. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. Gratta gratta, ma peggio è. Pure lo spray anti-zanzara mi son messo che è. Ma lei gira sempre intorno a me. E balli un suo twist, e balli un suo twist. La zanzara twist. Una bacino alla signora Boccassini. Una botta nel braccio e poi all'altro. Prendila, schiacciala, schiacciala, ti ha beccato. Il Partito Democratico, e se lei mi permette farei un appello a quelli che sono iscritti al Partito Democratico di stracciare le tessere o di riportarle a quel partito che è indegno, ancora peggio di Berlusconi, perché lo ha salvato sempre. Anzi, direi che forse sono pagati da Berlusconi. Spegni la luce, passa dalla TV. Ai, ai, ti ha beccato, ai, ai, ti ha beccato. Come ti stendi nel letto, quel noio... Marina Berlusconi a succedere in qualche modo a Silvio Berlusconi, a capo del PDL. Lei come la vedrebbe questa eventualità? Beh, vede, a me non piacciono le dinastie, né quelle monarchiche né quelle democratiche. E poi all'altro, prendila, schiacciala, ti ho beccato. Siamo qui, la Zanzara, 800-24-0024 per chiamarci in diretta, molte telefonate, prima però i titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3. Di Bersani. Il governo vara il piano per l'occupazione, 1,5 miliardi di euro previsti, 200.000 posti di lavoro, l'aumento IVA rinviato ad ottobre. F35, maggioranza e governo trovano l'intesa sulla mozione PD, rinvio e verifica sui costi e nessun acquisto senza l'ok del Parlamento. Varato il decreto per le carceri, 10.000 posti in più, arresti domiciliari per chi deve scontare 4 anni e lavori socialmente utili. Il Premier va da Napolitano, poi vola a Bruxelles per il vertice europeo. Dopo le tensioni, per ora c'è clima di tregua nella maggioranza. Si torna a parlare della successione al vertice del PDL dopo Silvio Marina. No alle dinastie, dice Brunetta, lei smentisce, ipotesi infondata. Storica sentenza della Corte Suprema americana, il matrimonio non è solo tra uomo e donna. Obama, un passo verso l'eguaglianza. 100.000 le vittime del conflitto in Siria, l'allarme lanciato dall'Osservatorio dei diritti umani mentre si allontana la soluzione politica. Zanzara! C'è una zanzara tigre! Secondo Lele Mora, Berlusconi è più buono di Papa Wojtyla, di Madre Teresa e di Lady Diana. E Ruby puzzava, ma la cosa più clamorosa dell'intervista sul Fatto Quotidiano di oggi, Lele Mora, caro Parenzo, è un'altra, che secondo Mora Berlusconi è impotente. Numero uno, dopo il suo intervento alla prostata non tutto funziona al meglio, cioè gliel'ha detto papale, non gliela fa. Infatti è strano che questo non sia, questa è la cosa importante, è strano che Ghedini e Longo non hanno portato come prova questa una testimonianza. E l'altra cosa che dice Lele Mora è che, l'aveva già detto Fede in realtà, è che Ruby puzzava di sudore, era malconcia, farla passare per una troia è assurdo. Cioè due cose, Mora dice, Berlusconi è impotente, perché quello vuole dire quando dice ha problemi, eccetera, Poi lui lo sa bene, no? E poi Ruby puzzava di sudore. Nicola da Pescara, vi dico subito che nell'inchiesta di Panorama ci sono dei nomi pesanti di politici che sarebbero andati a scrocco con fortissimi sconti Cheval Tour nei villaggi Val Tour, oltre a Beppe Grillo che dal 2002 al 2007, sempre secondo questa inchiesta, avrebbe avuto il 70% di sconto e solo una volta la cosa è stata certificata come scambio merce, almeno per quello che se ne sa. Ci sono altri nomi. Se non ricordo male, in quel periodo lì non faceva politica. No, non faceva politica, no. Ecco. Però intanto 70% di sconto, No, ho capito, ma io ecco, questo vedi, io lo attacco sempre, però questo è strumentale, cioè chi se ne frega. Se la Val Tour vuole fare uno sconto al signor Grillo perché è un comico, era all'epoca un comico affermato, ci perde la Val Tour perché è un'azienda privata. Diverso è il caso dei politici invece. Oltre ai casi Alfano e Schifani già usciti fuori, abbiamo notizie di... Vabbè, dopo faremo i nomi, va. Nicola da Pescara. Quello è curioso. Buonasera, ciao. Una cosa al volo. Siccome sono giorni che vi ascolto e sento parlare di Berlusconi come puttaniere, ormai è una cosa conclamata, lo sappiamo tutti, è un grande puttaniere. Per par condicio, vogliamo far conoscere una cosa agli italiani. Che cosa? Forse pochi sanno che l'amico di Parenzo, dice che non è suo amico, ma secondo me lo è, Carlo De Benedetti, se Berlusconi è un puttaniere, è il più grande pappone d'Italia. Perché? E vi spiego anche perché. Perché è, perlomeno spero lo sia ancora per lui, è il proprietario del gruppo L'Espresso, quindi ha 30 testate circa in tutta Italia. E che c'entra? Che ogni giorno, ogni giorno incassano su comunicazioni personali di mignotte che vanno a pagare 150 euro a modulo ogni giorno per mettere l'annuncino Bella Mora presenta, di Bella Presenza ti aspetta in via tot al numero tot, è uno sfruttamento legale della prostituzione. Quindi Carlo De Benedetti è un papone, glielo diciamo agli italiani? Lo sanno. Cioè lei sta dicendo che sui giornali locali del gruppo Espresso ho lavorato 20 anni per la società che li rappresenta, la Manzoni CSPA. Sì. Ogni giorno una filiale come quella di Pescara incassa 5.000-6.000 euro cash dalle donnine che vanno lì in ufficio con i documenti, è legale, per l'amor di Dio. Ma Carlo De Benedetti è diventato ricco grazie alle puttane. Lo vogliamo dire agli italiani? Ma questo è interessante. Lei stai zitto, Parenzo. Lei lavorava. Aspetta un attimo. Io prima lavoravo di con la Manzoni e CSPA, sì, che è una concessionaria di pubblicità. No, la conosco bene, certo. La conosce bene, no? Certo. Sa benissimo l'Espresso, Repubblica e tanti quotidiani tipo la Nuova Sardegna, il Centro, che possono elencare 20-30 in tutta Italia. Sì. Lo sa quanto muove di fatturato quotidianamente, perlomeno fino a quando ci lavoravo io? Adesso no, me lo dica, me lo dica. Guardi, se faccia il conto, se incassavano 5-6-7 mila euro al giorno per ogni filiale e ogni regione aveva almeno un quotidiano, moltiplichi il tutto per 365 giorni l'anno, cash. Sì. Scusi, questo non è sfruttamento della prostituzione. Lei dice sfruttano, cioè De Benedetti con i suoi giornali locali sfrutta il fatto che migliaia di ragazze, donne più o meno mature, cocotte, transessuali, quello che volete, vanno in ufficio allo sportellino col documentino. Ma ancora ci vanno, non fanno via internet adesso? Ma adesso un po' sarà sceso, ma fino a qualche anno fa, ma che credo ancora comunque, l'annuncio sul giornale in grassetto della cocotte o del travestito funziona sempre, funziona. E com'è che scrivevano? Com'è che scrivevano? Vabbè, qualsiasi cosa, Bella Presenza Mora ti aspetta per ore piacevoli. Cioè sfruttano le mignotte, in sostanza. Assolutamente sì, ma lo sanno tutti, la Cruciani tu non lo sapevi. Ma sì, lo so che mettono gli annunci, lo so. Non li vado a vedere quegli annunci perché me ne frego. Ma era una provocazione, diciamo a Parenzo che il suo amico De Benedetti ha fatto il pappone, è diventato ricco con i soldi delle troie, è legale. Lui risponde Parenzo? Parenzo, io mi imbarazzo della stupidità della gente alle volte. Perché? Allora quelle sono inserzioni pubblicitarie, dai, dimmi. Quelle sono inserzioni pubblicitarie che ci sono su qualsiasi giornale quotidiano. Certo, lo so, mica me lo devi dire tu. Qualsiasi. Allora, la tua idiozia è quello di applicare la proprietà transitiva. Guarda che hai trovato un espediente che è anche poco intelligente per difendere il tuo amico Berlusconi. Ma non è nessun amico. Che quelle amico... sono, ma è anche stupido dal punto di vista, non può neanche passare. Dimmi, parla. Non c'entra niente. Cosa dici? Ma è stupido, è una normalissima pubblicità, sei stupido. Ma cosa, per te è tutto normalissimo quando toccano il tuo culo, quello è un uomo di sinistra? ed è il più grande uomo di sinistra dal punto di vista della comunicazione mediatica, mica te lo devo insegnare io, è diventato ricco con le troie, lo devi chiamare davanti a me, davanti agli italiani, Pappone, se lo fai sei un uomo. Ma no, non è che faccio, guarda che la tua proprietà transitiva veramente è da poveretti. No, cioè, siccome, sei tu, siccome sei su un giornale siccome su Berlusconi puttaniere, sfruttatore di uomo che va a troie, che va a troie anche minorenni, tutto quello che vuoi, devi dire Carlo De Benedetti è un pappone, lo dici? Ma lei è veramente uno stupido. Ma no, lei è stupido lei, non darmi del lei, dammi del tu, sei stupido tu. Io veramente ho sentito una stupidaggine più grande. Però scusa, è una provocazione, Nicola. Nicola sta facendo una provocazione, però Parenzo, il punto ma è ma lo capisco, ma non è che vuole dire che c'ha una tenuta con le mignotte dentro. Dice semplicemente che attraverso i suoi giornali ospita consapevole degli annunci di persone che si prostituiscono e fanno le puttane. Bene, allora, bene. Vuole dire se e Berlusconi è sfruttamento della prostituzione, scusa. Vabbè, adesso su questo, legale, secondo me legale, legalizzato, ma è sfruttamento perché i soldi a chi vanno? Sì, i soldi degli annunci vanno 150 euro al giorno. Cruciani, a chi vanno sti soldini? Nicola, i contributi dello è Stato, tutto chiaro, grazie. Elena Grimaldi, pornostar, molto conosciuta, caro Parenzo, senti qua da quale pulpito? Da quale pulpito, signori? Elena Grimaldi, pornostar, molto conosciuta, scrive 7 anni a Berlusconi su Twitter, su Twitter 7 anni a Berlusconi, forse è la volta buona che ce lo togliamo dai marroni, lui, i suoi amici papponi e tutte le sue donnine. Well now little mosquito there must be. Io divento pazzo per queste cose. Elena Grimaldi, porno star, molto conosciuta. Vabbè, Gabriele da Brescia, dai. Buonasera. Dica. Chiamo riguardo a una telefonata che è stata fatta ieri da un ventenne che diceva che lui era fidanzato con una 17enne e che voleva andare in questura a costituirsi. Sì. Lei gli dava ragione. E l'altro pseudosinistroide invece annaspava sugli specchi. Ma io non gli davo ragione, io dico, ho detto che era una bella provocazione, mi piacciono questo tipo di provocazioni, poi sì, ragione, non ragione, chi se ne frega. Ma non bisogna essere neanche un avvocato perché non gli avete risposto. Un conto è frequentare chi non l'ha fatto da maggiorenne, una minorenne consenziente, un conto è frequentare una prostituta minorenne e indurla alla prostituzione. Questa è la bella differenza che c'è e il motivo della condanna di Berlusconi. E ha ragione Crozza quando dice che Ghedini si è laureato alla CEPU. E le spiego perché. Perché bastava che dicesse. Adesso sono diventati tutti avvocati. Per merda, per figura di merda. Andiamo a dire che tu eri il fidanzato e lei doveva ammettere che era il suo fidanzato. Vabbè, è arrivato l'avvocato. È arrivato l'avvocato. Sono tutti avvocati adesso. Hanno sbagliato tutti. Anche l'avvocato Pecorella oggi, avvocato di Berlusconi in tanti processi che ha lasciato Berlusconi, dice in un'intervista al Corriere della Sera che è stata una strategia difensiva sbagliata. Bisognava stare lontani da testimoni che potevano far nascere sospetti di condizionamenti. E poi dice che la storia della nipote di Mubarak sembrava una battuta alla Totò, un pasticcio all'italiana. Su questo ha ragione. Però sono tutti bravi dopo, sono tutti bravi dopo. Francesco da Grosseto. Francesco, mi sente? Sì, sì, pronto, buonasera. Dica. Il mio era un intervento piuttosto personale. Sì. Perché volevo dire al signor, diciamo, fra virgolette, signor Parenzo, sì, che la deve smettere ogni volta che nomina i camionisti, di cui io sono un rappresentante, di usare quei toni come se noi fossimo tutti degli idioti. Ma non ho detto questi fatti. Bravo. No, mi faccia parlare, per favore. Ma non ho detto perché questo. Lei sa che, ma no, no, certo, non l'ha detto, ma lo fa capire anche prima, quando si è rivolta a Cruciani, non mi ricordo su argomenti, dice, come i tuoi amici camionisti con quella prosopopea, quella boria, che non so da cosa gli deriva. Ma no, come diceva Enzo Biagi, che come giornalista penso era un po' più acculturato di Parenzo, dice, io ho lavorato o facevo il giornalista. Invece noi, allora, Francesco ha ragione, perché pensi, Parenzo, che un camionista non possa afferrare che c'è una differenza tra i soldi che vengono dati agli F-35 per gli aerei, per l'acquisto di aerei da guerra, e i soldi degli asili? Lo capiscono benissimo che non sono due cose che si possono mettere accanto, hai capito? Savir, quello che è stato anche in galera, ha detto, quel tuo amico che ogni tanto chiama Giuseppe. Sì, ma guarda che io sono orgoglioso di avere questi amici qua, sei tu che sei invece totalmente snob e vivi in un mondo, vivi sulle nuvole. Borsa. Ma Parenzo lo pagate voi per stare in trasmissione? La Zanzara. Zanzara. italiani sui Balcani che tengono lontane le zanzare. È laica, è laica, la matriosca è laica. A proposito, mi viene in mente Ghedini, ma a Berlusconi non gli è venuto il dubbio che Ghedini si sia laureato al CEPU? Sì, c'è in omaggio lo stregone Rasputin. Sì, c'è in omaggio l'astronauta Gagarin. Poi ci sono ancora quelli dei 5 Stelle. Bisognerà fare una rubrica prima o poi con le cronache marziane dal mondo 5 Stelle. Cronache parlamentari. Senti, questo Bernini, no? Te lo ricordi quello dei microchip, no? Sì, come no, certo. Bernini, micro, se sei ancora vivo, perché ti sento morto. Signor Bernini, che dice, Monti, incrociano Monti a un certo punto davanti alla Camera, al Senato, dov'è? E gli dicono, scusi Monti, può rispondere alle nostre domande sul Bilderberg? Sofia, portami via. Noi precisamente abbiamo chiesto a Monti che cosa si è sviluppato in questi 4 giorni, quali sono state le conclusioni avvenute in questo incontro. È lecito domandarselo, no? Per questo noi chiediamo a Monti, Monti rispondi alle nostre domande, di cosa avete parlato lì dentro? Cioè, perché lo fate così segreto? Perché non c'è trasparenza in questo gruppo che si riunisce da quasi 50 anni? Dovete vederlo questo video però, perché il signor Bernini, deputato o senatore, credo deputato della Repubblica, si presenta di fronte alle telecamere con un orecchino di legno grosso come una casa. Per carità, io sono il massimo del libertinaggio, però insomma, sei deputato, non vai con un orecchino grosso così, un orecchino grosso così di legno attaccato là. Abbi pazienza, su, dai. Ma dai, e ma con no, i capelli alla neck, alla ma che c'entra? Dai, questo? Su, ma dai. Ma scusami, invece vanno bene quelle con le canoe su al posto delle labbra e le tette rifatte. Ma no, ma va bene tutto, ma non vai con un orecchino di legno grosso così, dai, tipo panca bestia, dai. Ma critichiamolo per le stupidaggini che ma io non lo sto criticando per questo, sto facendo un piccolo appunto, non è che lo sto dovresti criticando. No, ma invece l'orecchino è la parte che lo rende migliore, invece sbaglio anche su questo, perché esteticamente in quello dimostra di essere una persona che il Parlamento non ha cambiato, andare nelle istituzioni non lo ha cambiato, tiene il suo orecchino, quello è meraviglioso, di legno. Questo dovresti dire, le sue stupidaggini vanno criticate, ma viva il suo orecchino di legno, i suoi capelli rasta, bellissimo. Vabbè, ma adesso mo, stai zitto, ok, hai fatto il teatrino, stai zitto. Sì, c'è la voglia rossa e blu di Gorbazio. Rinaldo da Como, eccoci qui Rinaldo. Buonasera Cruciani, buonasera. Vorrei tornare Dica. Rapidamente un attimo sempre sulla sentenza vista da un'altra volta. Sì. Ecco, io vorrei parlare un attimo della mostruosità giuridica che innesca questa sentenza. Cioè? Dei giudici, cioè io parlo di un cittadino italiano che è stato condannato a 7 anni. Sì. Sono condannato a 7 anni dicendo, io, i giudici hanno detto, trasferiamo alla Procura della Repubblica gli incartamenti perché 32 persone, sì, da cui vicequestori, ministri, avrebbero detto il falso. Ha detto il falso, da costoro siano perseguiti perché hanno detto il falso. Bene. Vabbè, bisogna però che siano prima indagati, eccetera, eccetera. Esatto, cioè. Beh, è qui che c'è la mostruosità giuridica. C'è la mostruosità giuridica perché praticamente il secondo atto, quello che sarà la Corte d'Appello, ammesso che la Procura della Repubblica prenda in mano questi incartamenti e dica benissimo, non sono d'accordo, hanno detto il vero. A questo punto la sentenza non ha motivo d'esserci, per cui chiaramente... Vabbè, adesso non la faccia complicata, però Rina, che vuole dire? Su. No, è una cosa serissima, perdoni. Nel momento in cui invece la Procura della Repubblica manda sotto processo 32 persone, vorrà dire che in buona sostanza l'appello non potrà mai pronunciarsi sulla sentenza, che dovrà prima aspettare che vengano processate 32 persone, Cruciani. Non è così. Non è una stupidata, mi perdoni. Non è così. Come non è così? Ma non è un altro procedimento quello, eventualmente sarà un altro procedimento. Una sentenza, cioè, questa sentenza ho capito, è stata fatta, ha detto questa persona ha merito 7 anni di galera perché 32 persone hanno detto il falso. Ma no, cioè, ma non è solo per questo. No? No, non è che hanno detto il falso quelle persone là. Diciamo che la loro interpretazione delle serate è di un modo, l'interpretazione delle serate... No, il vicequestore che è stato alla base su cui è stata praticamente detta... Cioè lei cosa vuole dire in sostanza? Scusi Rinaldo, vuole dire che se questi qua poi hanno ragione al processo significa che il processo principale è invalidato? Vabbè, indubbiamente. Ma sicuramente, perché se 32 persone hanno detto che questo personaggio, questo cittadino italiano è innocente, Io vorrei capire come diavolo possono condannarlo se vengono detti, hanno detto la verità. Mi vergogno, cruciale. Maria Teresa da Napoli, grazie, grazie Rinaldo. Maria Teresa da Napoli. Buonasera. Dica. Senta, io personalmente ho sentito l'inizio della trasmissione, io personalmente gradirei un Presidente del Consiglio che non tirasse troppo tardi la sera, andasse a dormire presto, la mattina dopo si sveglia fresco, riposato, pronto ad affrontare i problemi del paese che poi sono i miei problemi. Un poco come i vecchi macchinisti inizio secolo scorso, integerrimi perché dovevano guidare un treno e però, affrontare per i Però, Maria Teresa, io la posso, no, la posso capire, ma questo premier non è Berlusconi, almeno... Per carità, per carità. Lei può volere tutto... Lei può volere tutto... Il consiglio dovrebbe andare a letto presto, perché la mattina dopo, se non è fresco, sbaglia le cose. Quindi, effettivamente. Pensiero mio, assolutamente, capisce, pensiero personale. Secondariamente vorrei dire alla signora Ripa Di Meana che magari lei giustifica queste giovani donne di bell'aspetto, perché su questo non vale, che prendono scorciatoie, e naturalmente lei ha diritto di fare quello che vuole. Non è che non è che le assolve. Io non gradirei in casa mia giovani di entrambi i sessi che prendono scorciatoie. Ho capito, ma ognuno può avere tutte le ambizioni del mondo, però la vita è fatta così, il mondo è fatto così, non è che si può cambiare, non è che si può eliminare la prostituzione. E io ho detto già una volta... Io non ho detto che voglio eliminare la prostituzione. No, ma nemmeno, non è questione di prostituzione. Io vorrei legalizzare. Sì, d'accordo, però io ho già detto una volta. Sì, ho già detto una volta. Non si può, il migliore dei mondi possibili non esiste. Non esiste, non esiste. Beh, danzano come zanzare queste ombre sulla strada. E cadono le ceneri della città. Giuseppe, provincia di Vicenza, eccoci qui. Ciao Cruciani, buonasera, buonasera Parenzo. Niente, dica. Io pensavo una cosa, che ho sbagliato tutto nella mia vita, 55 anni, mantenere i figli e farli studiare. Ho sbagliato tutto, perché bisognava delle strutture diverse, dall'elementare, forse anche dall'asilo, bisognava insegnare ai nostri figli a fare i pompini. Perché non ha importanza sapere l'italiano come si vede dalla Pascale, ma l'importante è sapere fare i pompini. Questo è lo scopo della vita, oggi come oggi. Ma non è solo così, su, ma non è così. No, da quello che ci rappresenta l'Ipa di Meana e la Sant'Alchè, chi che sia, l'importante che è fare la questo, Sant'Alchè non è importante, adesso. Perché la vita è questa oggi, questo che ci rappresenta, è quello che ci rappresenta anche tutto. Ma non è così, ma non è che la vita è fatta solo così, esistono però queste cose, esistono ed esisteranno sempre, è inutile fare gli ipocriti, esisteranno sempre delle persone. Una volta ho detto un'affermazione in una trasmissione che mi ha provocato un sacco di casino, un sacco di polemiche, eccetera, ti ricordi Parenzo, era da Gorà, credo, se non sbaglio. Come no? Ho detto che il fatto stesso che esistano, il fatto stesso che esistano, delle persone che si rivolgono, uomini o donne che siano, a persone potenti per ottenere dei vantaggi, eccetera, eccetera, è il segnale che esiste una società viva, una società come noi la conosciamo, una società occidentale che ha anche dei difetti, non è il migliore dei mondi possibili. Che cosa si rincorre? Il migliore dei mondi possibili. Non esiste questo mondo ideale in cui non esiste la prostituzione, in cui non esistono persone che prendono scorciatoie. Ovviamente bisogna ridurre queste cose al minimo, ma questo non vuol dire nulla, nulla. Vado a stare svegli per amare. Oh! Ma che fastidio, che fatica a sopportare di notte le zanzare. Siamo qui con la moglie di Giuliano Ferrara. Beh, no, in realtà è Anselma Dell'Olio, moglie di Giuliano Ferrara, ma anche tanto altro. Buonasera. Buonasera, la ringrazio per aver fatto il mio nome oltre alla mia carica sociale, diciamo. No, mi è partita male all'inizio, è vero. È quello che mi metteranno sulla tomba, eh? No, come sulla tomba? Qui già c'è la moglie di Ferrara, perché è raro che qualcuno mi chiami. Mi conoscono, per dopo dico sì, Anselma, però prima è la moglie di Ferrara, perché va benissimo. Mi sono sposata tardi, quindi non mi sulla tomba più. Voglio, anzi lei deve dire, io sulla tomba voglio che sia scritto questo. Sì, va benissimo. Moglie di Anselma. Che, perfetto. Che c'è, Parenzo? Sai che dietro il successo, come dire, soprattutto all'inizio di Giuliano Ferrara, c'è la regia della vabbè, hai detto una stupidaggine, che vuol dire? No, hai detto la solita banalità, che dietro il successo di un uomo c'è sempre la moglie. No, vabbè. Ma nel caso di Giuliano, oh, mamma mia. Ma è verissimo. Scusa Anselma, tu che senti spesso la zanzara, ma non ti sembra un po' Parenzo un po' fuori giri, un po' sì, un po' deboluccio in questo Lady Macbeth, capito? Non sa chi è Lady Macbeth, lui non... l'assassino. Lo so. Non fare citazioni troppo alte, perché non lo sa lui cos'è Lady Macbeth. Poverino. Fa finta di essere ignorante, non lo è affatto. Beh, scusami, Selma, ma le Olgettine, secondo te chi sono le Olgettine? Le Olgettine sono delle ragazze, delle donne, sì, che si vestono, non si vestono in zoccoli e gonna fiori, preferiscono un abito aderente magari con lo spacco, e si truccano e vanno a delle cene eleganti, perché io sono stata a cena da Berlusconi, sono sicuramente eleganti, sì. Lui è molto spiritoso e divertente, si divertono e forse, diciamo, da che mondo è mondo, le donne se possono e se vogliono e se sono un po' attraenti si fanno aiutare. Dunque, per te non c'è niente di male il fatto che ci siano alcune persone, un gruppo di persone anche consistente, diciamo, come nel caso di Berlusconi, che vanno in massa, frotte di ragazze che vanno alle scene di Berlusconi e che si fanno dare dei danari, in alcuni casi delle case, in altri casi... Non è che si fanno dare, guarda che è molto regalino Berlusconi, ha fatto a me tanti regali. Che regali ti ha fatto? Delle cose ma piuttosto belline, una volta vieni a casa mia te le faccio vedere. Gioielli pure, no? Gioielli. Se le portasse al Monte di Pietà, insomma, ricaverei un bel gruzzoletto, ecco. Capito, Parenzo? Un uomo è proprio è una sua funzione, lui gli piace, gli piace fare regali, gli piace aiutare, gli dispiace se vede una persona che soffre, che sta male, che ha dei problemi, deve risolvere. Ma secondo te ci faceva sesso con queste persone? Ma sono, lo so che è una questione privata, eccetera, eccetera, però è anche una delle questioni fondamentali. Alla fine che succedeva? Perché alcuni dicono c'erano cene... No, non è più privata. No, ma infatti non è privata, però c'è stato finché non ci hanno messo le cimici. Io voglio vedere se vengono a mettere cimici nei bagni e sotto i letti di chiunque, cosa puoi. A casa mia succede un casino. No, fai schifo. A casa mia succede un casino. Sei guardone, perché? A casa mia succede un casino se metto le cimici. Appunto, ma che schifo, ma che schifo i guardoni. Beh, sì, ma che schifo. Beh, insomma, dipende, dai. Io ancora devo scovare una vittima in questa storia. No, non c'è, effettivamente sembra non esserci, sembra non quindi, esserci. Reati senza vittima non è reato. Ieri tu hai detto reati. Una cosa non molto... Non c'è un reato dare a cena a casa di un potente ricco, non c'è. Beh, qui c'è il reato... Metà delle donne al mondo belle sarebbero in prigione. Qui c'è un reato che viene identificato come prostituzione minorile. Sì, ma non è stato assolutamente dimostrato. Beh, sì, perché lei dice di no, che non c'è stato sesso, però anche la palpa... Da quando in quale teste non si... Cioè, qui siamo all'Inquisizione. Anche le palpatine, non come sai. Non hanno fatto neanche testimoniare. Cruciani, è una cosa... è assurdo! No, ma a me, su queste cose, con me sfondi una porta aperta, sai, su questo processo qua. Su altre cose, no. Però è normale, secondo te... Scusa, Anselma, però, al di là della difesa del fatto che tutte queste cose, secondo me, non devono finire in un processo. Però è normale che Berlusconi abbia una prostituta. Ma io lo dico senza che la parola prostituta abbia una accezione negativa. Ma come sarebbe? Che una signorina brasiliana abbia sul cellulare la scritta Papi Berlusconi, è normale secondo te? È reato? No reato, ma no reato. Ma chi se ne frega della normalità? Io non sto a giudicare la normalità degli altri. No, ma non ho capito. Normale, però, chi ci sono che dei giudizi anche politici. Di dire cos'è normale, cos'è anormale. Sono cazzi suoi, scusi, Sì, no, ma sono cazzi suoi, sì, cavoli delle ragazze. Ma non sono solo cazzi suoi. Quando uno è preso dentro i telefonini e mettere i cimici, ascoltare le... Ma è una cosa per... Però quando uno fa il presidente del Consiglio non sono solo normale. Non sono solo... Sappiamo noi cos'è normale. No, ma non sono solo cazzi suoi quando uno fa il presidente del Consiglio, però. Non è che sono solo cazzi suoi. Adesso, perché tutti quelli che diventano presidente improvvisamente cambiano pelle. Diventano un'altra persona. Comunque ma chi stiamo a prendere in giro? Che una volta queste cose non venivano fuori. Ora, siccome Berlusconi dà fastidio, sono 22 anni che sta lì, c'è una guerra civile in atto, non riescono a sconfiggerlo per sempre nelle urne, allora bisogna trovare altri mezzi. Scusa, Selma, ma queste scene, dove andavi tu, non c'era nessuna persona, non succedeva niente di particolare quelle dove sei stata tu? Si mangiava, si divertiva, Berlusconi è uno dei uomini più divertenti del mondo, ci si diverte assai con lui, se ne sono accorti anche quei pochi di sinistra che hanno avuto modo di conoscerlo. Ma come a finivano queste scene? Eccetera. Finiva a mezzanotte? Loro assieme ti rendi conto di quanto è divertente. Si innamorano pure quelli di sinistra? È facile innamorarsi di Berlusconi, veramente almeno se ti piace ridere, se ti piace gli uomini spintosi, arguti, divertenti, è facile innamorarsi di Berlusconi. Ma questo... Scusate, ieri tu hai detto però una cosa eccezionale, le Olgettine sono meglio e meno ipocrite di chi? Ecco, di chi magari c'ha una storia con un dirigente di partito sposato con figli. Ma no, non hai detto c'ha una storia. Sposare, hai capito? C'è una botte via e vengono mandate a fare il numero nelle piazze o a fare le fotocopie. Cioè sono meglio e meno ipocrite di quelle che si fanno scopare gratis, così hai detto. Sono sceme, perché quelle lì che fanno a sinistra, li conosciamo, guarda, basta dire alle donne di sinistra, l'ho detto in televisione una volta a Bianca Berlinguer, che stavano parlando proprio di queste storie di Berlusconi. Sì. Scusate, che perché ce l'avete tanto con Berlusconi? Ma rivolgetevi ai maschi vostri che non vi danno i posti di potere, che vi tengono fuori, vi fanno fare i bassi servizi, vi tengono come... Non sai come sono state. Tutte a ridere, a guardarsi tra di loro, e vedi l'incazzatura che c'è nelle donne di sinistra se gli tocco sul maschio loro. Ma perché, scusa, ma chi, per esempio, fammi un esempio di quelle che in realtà, come dici tu, si fanno scopare gratis dai perrucconi di sinistra sposati. Vuoi che faccia nomi? Che ma ne ce so? Ne sono a bizzette, ma figuriamoci se faccio nomi, non faccio la spia io. Poi comunque non è questo il punto, è che conosco il mondo, conosciamo le persone, si sa chi sono. Io poi vengo dalla sinistra, Cruciani, non sono una nata di destra. Sono venuta a destra per lo schifo che mi fa la sinistra, l'ipocrisia. Non li sopporto. Basta, hanno mentito. Sono tutte parole vuote quelle che dicono. E vogliono, dicono di essere dalla parte dei più debili. Ma dove? Ma come? Oggi comunque mi sa che a casa vostra siete un po' in lutto con questa storia della Corte Suprema Americana del matrimonio gay, eh? Senti, se forse non mi dire che la pensi, sposarsi, che lo facciano. Mi delude molto. Io li ho sempre pensato agli omosessuali come a delle persone libere, spregiudicate, divertenti. Ecco, invece se vogliono proprio la casetta con il picchetto intorno, ai bambini e le cose, che la facciano. Io non vado a lutto mai. Se le persone non mi dire che pure tu, non mi dire che pure tu sei contro il matrimonio gay come Giuliano, dai, su. Lo sto dicendo, se proprio ci tengono lo fa, è il contrario. Sto dicendo, se proprio ci tengono lo facciano. Vabbè, come dire che sei contrario, che non te frega niente, così. Ma se proprio ci tengono a sposarsi, ecco, con le fedi e tutto quanto, in chiesa, con l'abito bianco, i genitori, i confetti. È una cosa così noiosa, io detesto i matrimoni, amo il matrimonio come istituzione, ma i matrimoni, quelli proprio dove stai seduto ore a tavola e tutta quella cosa. Vabbè, magari c'è anche un matrimonio normale, comunque, magari c'è un matrimonio normale in cui uno va in comune, si sposa e poi se ne va a casa senza troppe orpelli, senza troppe cose. Sì, vabbè, no? Ma non credo che sia questo. C'è una tristezza per la cosa, capito, tradizionale. Cioè, per i gay è una tristezza. Tra l'altro, questa è una storia, scusi Cruciani, ma questa storia di matrimonio gay si è cominciato a parlare negli ultimi anni. Io non mi ricordo, in tutti gli anni di New York, delle manifestazioni, delle cose, giù al Village, le rivolte, nessuno parlava del matrimonio. Cioè i froci americani un tempo, quelli veri, non si volevano sposare. Ma nessuno ci fa, ma ridevano di una cosa simile, ma non gli è venuto in mente, è una cosa calata dall'alto questo del matrimonio, viene dal Per non parlare del femminicidio, della famosa storia del femminicidio. Che orribile parola. Mamma mia, io quello sono d'accordo con te, guarda, io non la sopporto questa parola, appena sento la parola femminicidio metto mano alla pistola, come diceva un famoso gerarca di un tempo. È il caso di dirlo, io vorrei, se io fossi presidente del Consiglio, istituirei dei corsi obbligatori sin dalle elementari di Tai Chi o di arti marziali per le donne, mi sembra che sia l'unica cosa, perché è sempre esistito questa cosa, le donne sono sempre state uccise dalle persone vicine a loro. Sì, in grande maggioranza. Ma perché bisogna fare un reato apposito? Oppure magari, cioè, un omicidio è un omicidio, punto e basta, che sia con la donna, un uomo, un transessuale, un minorato, detto in senso buono, ovviamente. Cioè, una qualsiasi persona, chiunque viene ucciso, è un omicidio, basta, non c'è bisogno di fare cose. Sì, bisogna, d'accordo, come dire. D'accordo, non è una novità, solo questo voglio dire. Vabbè. Cioè, se devono inventare una parola nuova per una cosa vecchia. Allora, queste parole. Dimmi Parenzo, che c'è? Che no, c'è? Dico Parenzo, a te, ma c'è però una grande contraddizione, perché quando Berlusconi era al governo e il ministro era la signora, la bravissima Carfagna, che lo dico senza ironia, tra l'altro una delle più brave e sveglie tra le ministre del governo. Io sono d'accordo, ho lavorato con lei, è una persona eccellente. Però mi fece incazzare quando quello stesso governo propose norme punitive contro la prostituzione. Allora, dico, c'è una contraddizione. Beh, questo non si fa, questo non si fa, No, Parenzo. Scusa, no, Parenzo, amici del centro-destra, cara Selma. Non dite mai che ci sono state prostitute. Mai stato dimostrato, mai. Nessuno l'ha dimostrato. Ma siete pazzi. Cosa siamo pazzi? Ma è possibile? Ma è una cosa assurda, nessuno sono uomini che non hanno bisogno di questi mezzi. Vabbè, sono davano, talmente dai, potenti, pagavano. Talmente tanti, non esiste. Ho capito. Non esiste il problema. E comunque va dimostrato, non si possono fare delle accuse di questo genere senza avere delle prove certe, al di là di ogni ragionevole dubbio. Cioè, Rubi che cos'era secondo te, scusa? è una ragazza emigrata di una famiglia islamica che si ribellava, come tante ragazze si ribellano alla famiglia, con la differenza che probabilmente non erano ricchi, c'erano dei problemi, è scappata di casa, era una ragazza con dei problemi, e una ragazza che la sinistra, che dice di stare dalla parte dei più deboli, dovrebbe abbracciare. Dovrebbero dire, beh, ma pensa che generosa, ha aiutato proprio una ragazza in difficoltà. Cioè la sinistra dovrebbe abbracciare fortissimo Berlusconi per dire, ah, caro. Non dico che devono abbracciare, no, non sono così cretina. Dico, Ruby, perché devi darle dalla prostituta a una ragazza che è scappata di casa, che si barcamena, che è chiaro che... Dovrebbero abbracciare Ruby, facile, dovrebbero abbracciare Ruby, sì, abbracciare Ruby come aiutarla. Non lui, lei, non travisare quello che ho detto. No, lei rappresenta quegli immigrati in difficoltà che la sinistra a parole dice di difendere. Beh, insomma, alla prima occasione, siccome serve per attaccare Berlusconi, l'immigrato non serve. Però a Milano veniva per guadagnare dei soldini, anche con, come dire, con, no? Con che cosa? No, ma insomma, cercando di arrabattare le serate, eccetera, insomma, vuol dire, non è proprio la classica immigrata col barcone, ecco, insomma. Diciamo, no? Era una ragazza che gli mancavano 6 mesi ai 18 anni. Quindi non è che una teenager in giro qualunque cosa faccia per sopravvivere, che allora? E allora? No, ma per me, a me lo dici, ma figurati. E allora? Se io non riesco, non... Senti, dopo parliamo, dopo riesco a dire, oh, ma insomma sono scorciatoie, oh, ma con quale aria, quando a sinistra ci sono quelle che si scopano i dirigenti per farsi pubblicare i libri, come Sorrentino ha dimostrato nel suo film. Però fammi un nome di una persona, quello invece va benissimo perché nessuno lo sa, o per lo sanno, per comunque fammi un nome, un nome di chi a sinistra fa le stesse cose, però me non lo devi fare. No, io non sono come loro. Allora andiamo alla pubblicità. Poi torniamo con Anselma Dell'Olio, non dico il resto, Anselma Dell'Olio, punto. Pensiamo a preservare la specie umana, curiamo gli omosessuali per vedere di riportarli all'eterosessualità, abbiamo pochi soldi soprattutto in Europa e dobbiamo destinarli a preservare la specie. La Zanzara. Però ragazzi, a me rimane impresso questo tweet, caro Parenzo, di questa pornostar. Ti prego, perché veramente siamo arrivati al massimo, Elena Grimaldi, signora Elena Grimaldi, sì, pornostar, eccetera eccetera, mestiere nobilissimo. Che dice, no, la signora Grimaldi? Non ho nulla da dire, nulla da eccepire, niente, proprio nulla, anzi, insomma, la quale dice su Berlusconi, la politologa Elena Grimaldi, sì. Elena Grimaldi, dove diavolo sta, lo devo recuperare, scrivere sono andato sul sito della signora Grimaldi. No, questa Grimaldi dice innanzitutto sulla Sant'Anchè, ma la Sant'Anchè con la maglia siamo tutte puttane, che parlasse per se stessa, prima cosa, sì. Poi su Berlusconi, dove diavolo è il tweet su Berlusconi, poi ve lo... Però mi spieghi perché sul sito della signora Grimaldi, sì, c'è lei con una pompa, diciamo, di acqua, sì, se la irrora. Vabbè, fa la pornostar, non è che fa la politologa. Poi, ecco, non sta china sui libri, non sta china. No, ecco, però poi non vorrei che la signora Grimaldi può parlare di tutto come qualsiasi cittadino italiano. No, assolutamente, figuriamoci. Però è curioso che la signora che si irrora il corpo con questa pompa d'acqua, sì, meravigliosa peraltro, tu vorresti essere quell'acqua. Beh, assolutamente, ma nella maniera più assoluta, sì. Tu sei un vecchio porco, quindi... Ma io sì, lo dico, ma vecchio no, però sì, il resto sì. Sempre solo a quello. Ma no, quello no, e però... E poi la signora Grimaldi ci faccia lezioni di come dire, di etica e di, sì, di sessuale... Questo appare bizzarro, ecco, come appare dire, un po', è come chiedere ad Ahmadinejad di parlare di democrazia, cioè, è un po', siamo su quella strada, insomma, siamo, no, su quella strada, ognuno ha le sue specificità, è come chiedere a Anselma Dell'Olio a parlare male degli Stati Uniti, insomma, no, ecco, cioè, appunto, la stessa cosa, uguale. Allora, signora Elena Grimaldi dice 7 anni a Berlusconi, forse è la volta buona che ce lo togliamo dai maroni, lui, i suoi amici papponi e tutte le sue donnine. Sia Elena Grimaldi, come dice Parenzo, bisognerebbe andare sul sito, andate, comunque facciamo anche un po' di pubblicità sulla signora Grimaldi, e così vedete irrorata da una fontana, vabbè, d'accordo, no, da una fontana, da una pompa, vabbè, d'acqua. Non continuiamo, però non continuiamo, Siamo qui con Anselma Dell'Olio, moglie di Giuliano Ferrara, grande polemista, e vorrei chiedere... Non condivido questa cosa qui di Anselma. Ma tu non condividi perché sei un moralista de sinistra. No, ma le voglio un bene dell'anima. Sei un moralista, ma che bene, lascia perdere. Sei un moralista de sinistra. Ma che moralista io? Moralista di sinistra. Sì, sei tutto così, sei tutto. No, dico che il governo Berlusconi con l'ottima ministra Carfagna non fece atti atti politici conseguenti a quello che è l'atteggiamento del Presidente del Consiglio. Vabbè, cioè, ma lei dice non è provato che sono delle prostitute, non essendoci la prostituzione. No, ma dico, se tu sei Presidente del Consiglio e giustamente recrimini di avere una vita libertina, che è un tuo diritto, però viva Dio, fai che anche tutti noi possiamo andare a puttane, usare il preservativo, usare la pillola del giorno prima e del giorno dopo, fare l'aborto, fare il divorzio brevissimo, cioè sì conseguenziale con il tuo stile di vita. C'ha dell'olio, questo è vero però. Bel mondo che stai dipingendo, bello. Beh, fantastico. Bello. Ma come bel mondo? Beh, divorzio quello breve. Tutti... Ma perché svillaneggi in questo modo un uomo che non va a puttare? Io sono pronta a giurare. Ma io non dico questo, ma io... Berlusconi, e quindi è conseguente il suo comportamento, non è affatto. Io sono d'accordo con te che bisognerebbe assolutamente decriminalizzare tutto quello che riguarda i reati senza di ma dai, ci rompono i coglioni anche sul divorzio breve, Anselma, pure sul divorzio breve ci rompono i coglioni, dai. Scusa. O no? Vogliamo farla ancora più facile? Come no? Certo, ma scusa, ma il divorzio breve... No, ma vado in America, Las Vegas, stai lì in 2 minuti. Vabbè, adesso sei diventata pure conservatrice. Ma costa poco. Ormai con sei contro il matrimonio gay, sei contro il matrimonio gay, sei contro il divorzio breve. Senti, non lo so. Mi mettere parole in bocca. Io non ho detto che sono contro. Vabbè, te ne frega. Che mi fa specie, scusami. Fermati un attimo, perché una cosa sui matrimoni gay c'ho da dire. No, ma scusa. E l'ha detto Michael Kingsley, che è un neoliberale, uomo di sinistra, che scrive sul New Republic, giornale molto stimato. Dici. Ha scritto un pezzo che si chiama The Gay Marriage Police, la polizia del matrimonio gay. È diventato di una tale correttezza politica che se dici che sei contrario, tu sei contro gli omosessuali. Mentre non è vero. Io non sono contro il matrimonio gay, ma uno come Giovanardi che ragiona, perché io gli odio bene a Giovanardi, è un uomo che ragiona, che dà le sue motivazioni, niente, deve essere per forza un cretino anti-omosessuale. Ma perché non si può essere legittimamente certo che si può essere senza essere contro gli questo omosessuali? Questo è vero, si può essere, io su questo sono d'accordo, si può essere basta, anche ferocemente contro, dipingere tutto con un unico spazzola, basta. No, ma su questo hai perfettamente ragione. No, su questo hai ragione. Senti, io vorrei capire. Sì, ma... ha ragione nel merito, ma non è questa la questione. Vabbè, adesso lasciamo perdere. La questione è questa, Parenzo, altro che, dai. Anselma, scusa un attimo. Io voglio che il mio l'ex presidente del Consiglio, che è divorziato, che ha un sacco di amiche e fa bene ad averle, consenta anche a noi poveri cittadini comuni di andare a puttane. Ma no, gli stessi diritti. Ma perché non ci potete andare? No, però ci sono un po'. Come parlavate prima? Scusate, la Carfagna voleva punire i clienti. La Carfagna voleva punire i clienti. Due vecchi babosi. Ma come due vecchi babosi parlando della? Due vecchi babosi, Ma vi sentite uomini migliori perché parlate così di una pornostar? Ma no, ma ho capito, no, ma a me guarda che io è un mestiere che adoro, quello della pornostar, è bellissimo, è straordinario. Sì, vabbè, ma da come ne parlavate sembrava. Ma no, ma non mi può. Ma no, ma non due può fare. Due vecchi babosi. Vabbè, poi ha detto delle stronzate. Ecco, appunto. Ha diritto di dirle. Ma certo che ha diritto di dirle, per carità, ma figuriamoci. Perché bisogna svillaneggiarlo? Non è già abbastanza svillaneggiata come pornostar? Ma no, la pigliamo per il culo. Ma camminiamole sulla pancia, ma buttiamola ancora di più nella pattumiera, cioè perché? Questa è totale mancanza di rispetto. Adesso lo dico, ma tu lo sai che ridere perché siamo la zanzara, però... ma tu lo sai che è la numero uno insieme dell'olio, è una polemista pazzesca, la vorrei tutti i giorni io quasi, è una cosa pazzesca. Perché poi ti conosco, vi conosco, non siete convenzionali. Senti un attimo Anselma, ma Marina Berlusconi come la vedi come successore di Silvio? La conosco poco, la conosco poco, veramente non posso dare un giudizio perché l'ho vista quando era molto più giovane e stava sempre con papà e gli teneva la mano, gli vuole un cioè sono molto legati loro due, ma non è che questo ma non la vedi come possibile, ma non la vedo da allora, cioè la vedo sui giornali. Vabbè, ma così come idea non lo so, se poi sarà brava in politica, ok, perché no, perché ma che facciamo, no? Dai, Marina La Pen, perché non lo può fare Marina, ma che facciamo Dallas, facciamo vabbè, è un po' dinastica la cosa, pare Dallas. Brutto pare brutto, ci sono tante dinastie, la dinastia dei Kennedy, la dinastia dei Bush, adesso dobbiamo fermarci sulla dinastia Berlusconi, perché mai No, ma vabbè, così, così, vabbè, parla. Così, tanto per parlare. No, okay, tanto per parlare mi va bene. No, okay. Ma secondo io ho avuto notizie comunque inside da questo caso da persone molto vicine, che escludono nella maniera più assoluta, che Marina Berlusconi possa entrare in politica. Sì, sì, da quello che ho capito io non ne ha nessuna. È tutta una pantomima, tutta una roba per chiacchiera, ma non così. Sono loro che fanno agli altri che glielo buttano addosso. Sì, vabbè, ma sai, i giornalisti sono così. Invece la signora Pascale ieri come ti è sembrata? Una leonessa che combatteva lì nell'arena. Io non sapevo chi era, l'ho visto che girava nella piazza con la polizia intorno, che bella donna. Beh, insomma, adesso. Non sapevo che era, perché sono distratta io, come Giuliano me lo dice sempre, forse è vero. Però poi dopo ho letto che era lei, beh, è una gran bella ragazza, ha avuto anche coraggio. Beh, un po' c'è qualche ritocchino se l'è fatto, piccolo ritocchino se l'è fatto. Io non ho nulla contro. Ma adesso sembri Dago Spia, però, Cruciani, mi deludi. Vabbè, qualche ritocchino, bisogna dirlo. Ma ormai i ritocchini se li fanno anche alle elementari, il ritocchino. Ma io non me lo so mai fatto il ritocchino, anzi, ma cane, gatti. Ma manco te lo sei fatto il ritocchino, perché devi dire che tutti si fanno il ritocchino? Non è così, non bisogna dipingere un mondo in cui tutti si fanno i ritocchini, non è vero. Molti, moltissimi, e lo sai benissimo. Ma no, ma io non ho nulla contro, però non è che tutti. Vabbè, insomma, così hai detto la tua cagatina sulla Pascale, ok. Hai ragione, no, ma infatti non colpisce. Allora, poi? Ma quella ha ragione, poi altro dobbiamo dire di lei? Chi se ne frega. No, ma infatti no, però combatteva come una leonessa là in mezzo ai giornalisti che la provocavano. Bravissima. No, pure secondo me è eccezionale. Non sono una puttana e non è una puttana Rubi, bravissima. Scusa un attimo, vogliamo parlare di Travaglio, che ha definito tuo marito un fenomeno del Luna Park a mezzatria tra maggio... Marco Dettaglio? Marco, adesso non copiare, non copiare Giuliano. A me diverte tantissimo. Ah, ti diverte addirittura? Ah, Giuliano ride proprio quando, cioè, mette lì e sento che ride forte, un'altra sera che vado lì sta leggendo Travaglio. Ah, ride, quando legge Travaglio ride. Molto ridere, sì, perché è spiritoso. Vabbè, questo è buono però, cioè, ma guarda che Giuliano è cresciuto in una famiglia che gli ha insegnato a leggere sempre l'opposizione. Dunque lui la prima cosa ti che dicono qualcosa che i tuoi non ti dicono. La prima cosa che fa quando si alza la mattina è leggere Travaglio. Perché la prima cosa che fa. La seconda non se lo perde un giorno il fatto, sicuramente. Legge dalla di Travaglio almeno lo legge, sì. Lo legge e ride. Ride. E ride, sì. E ride di gusto, però lui non è te. Siamo divertiti alla trasmissione dove c'era con Berlusconi, però era un altro Travaglio quello, Mo ammanzito un po', ammanzito. Mi dicono che non si è ancora ripreso. Ma non si offende, quando Travaglio lo chiama il Platinette barbuto? Ma Giuliano non si offende mai, fa collezione delle vignette che lo ritraggono in tutti i modi, no, lui l'ironia e la cosa, no. E tu non ti offendi come moglie? Come? E tu non ti offendi come moglie? Ma rido pure io. Ridi, ma c'è. Me lo fanno molto di meno perché sono molto meno nota, ma insomma quelle poche volte l'hanno fatta anche a me, addirittura in televisione, mi diverte moltissimo, cresce il mito. Quando ti fanno il verso cresce il mito. Cioè, quando uno dice fenomeno del Luna Park, appunto Platinette barbuto, mezzatria tra mangiafuoco e la donna cannone. Cresce il mito. Beh, tu dici stupendo. Ha ragione. Avercene, dice di Travaglio, no? Avercene. Ce ne abbiamo, basta lui, però ce n'è qualche la squadra juniores c'è. Immagino. Crescono, piccoli Travagli crescono. Meno male. Senti, invece la Boccassini la vorresti conoscere te oppure non te ne frega niente? Proprio. No, mi sembra di capire benissimo che tipo è, abbiamo visto 6 ore di requisitorie. Che tipo è? L'italiano innanzitutto non lo conosce, questo mi pare chiaro. Come? L'italiano zoppica un po', sull'italiano. Sì, non è forte. Non è forte, sei meglio te che non sei italiana, comunque. Perché io sono diligente, credo, essendo proprio straniera, mi sono. Ecco, appunto, da questa requisitoria che abbiamo capito. Come? Da questa requisitoria, che cosa hai capito della signora che Boccassini? Che non aveva nulla in mano, se no. Vabbè, quello adesso. Parli meno. Lascialo agli avvocati, quello, dai. No, quando tu fai 6 ore di requisitore, vuol dire che non hai mosche in mano, perché se no te basta un'ora, te ne bastano almeno 3. Vabbè, ma perché 6 ore? Perché faceva dei giri, perché questo, perché era un'inquisizione. Ma sono un po' fissati col sesso, sti magistrati, secondo te? Sono fissati col pisello di Berlusconi. Cioè la Boccassini è fissata col pisello di Berlusconi? Fissati. Una mia amica psicologa di sinistra californiana, sì? L'ultima volta che ero una, diceva, ma perché sono tutti così fissati col pisello di Berlusconi in Italia? E perché? E dico, se me lo sai dire tu. Perché sono fissati secondo te? Perché la basta, non è che devi scomodare Freud, no? Perché la Boccassini è fissata? Invidia del pene, non è invidia necessariamente del membro, ma invidia di tutto quello che lui è. Ah, cioè la Boccassini alla fine è invidiosa, dici? No, ma non così direttamente. Lei non lo so. Lei è una magistrata, fa il suo lavoro, si vede che... Però, insomma, non ha fatto una requisitoria convincente, questo è sicuro. Va bene, Anselma, ti abbraccio fortissimo. Anch'io, a presto. Tutti voi. Ciao, ciao, baci. Pubblicità. Perché poi ti conosco, vi conosco, non siete convenzionali, non siete politicamente corretti. La Zanzara. Tu sei come una piccola zanzara che l'estate mi tortura, mi rende isterico. Tu sei come una piccola zanzara. Ma io non capisco perché alcuni vengano alla Zanzara, perché voi siete degli stronzi, quindi avete rovinato più carriere voi, però la Zanzara ha fatto parecchie vittime. Sempre facile pure cucinare, che ci resto a fare insieme a te. Siamo qui 800 24 00 24. Caro Parenzo, Alessio Tacconi, onorevole del Movimento 5 Stelle, scopre che con 5.000 euro lordi io con la mia famiglia a Zurigo non ci campo, capito? Signor Tacconi? Sì, adesso se ne accorge il signor Tacconi, che non è parente di Tacconi, ex portiere della Juventus, ex portiere della Nazionale. Anche perché sennò non avrebbe quei problemi. No, non è vero, perché i giocatori di una volta non è che guadagnassero così tanto. In ogni caso, dice che lui con 5.000 euro lordi non ce la fa. Consuma, mi rende isterico. È uno di quelli che vuole andare via. Beh... Vogliamo ricordare il meraviglioso tweet di Francesco Boccia sulla questione degli F-35? Sì. Presidente della Commissione Bilancio alla Camera, in sostanza Partito Democratico, in sostanza non si tratta di fare guerre, con gli elicotteri si spengono incendi, trasportano malati, si salvano vite umane. No, con gli F-35, devo dire la verità, io che sono favorevole non solo agli F-35 ma a tutti gli armamenti del mondo, non si spengono incendi, non si trasportano malati, non si salvano vite umane. Anzi, come ha detto il ministro della Difesa Mauro oggi, la pace si ottiene armando la pace. Meravigliosa definizione per dire che la pace si fa anche armandosi. Ma questo è tutto verissimo. Basta con questo ridicolo pacifismo che paragona gli F-35 agli asili. Una puttanata inaudita. No, ma questo però è un'altra questione. Cioè, non è che io non sono certamente un irenico. Non sono un irenico. No, non parla come mangi, dai, parla come mangi. Non sono su. Un irenico, non sono un portatore di pace, tutt'altro. Io sono perché come Parenzo Kaiser. Questo. E quando sì, mai? Parenzo. E quando mai? Parenzo, quando mai Parenzo non dice stupidaggine? Capito? Ma questo, te lo deve dire anche Michiché. Te lo deve dire anche Michiché, sì. Questo è Michiché. Però un bilancio di uno Stato può essere rivisto a seconda del momento storico. Ma quindi, quale momento storico? Ma non rompi i coglioni. Qui sono programmi bilancio, che vanno avanti da governi e governi. Scusa, poi se assumessero. Però al di là di questo, io ti do anche ragione. Ti do anche ragione. Come si chiamano scelte di bilancio? Sì, no? Però lascia perdere decidere. Le parole. Lascia per. Tu sei diventato ormai veramente di una pedanteria e di una noia mortale. Cioè, la cosa da semplice da dire, lascia perdere tutte queste spiegazioni, queste alchimie che la gente non capisce. Allora, le soluzioni. Sono due: o ti prendi la responsabilità di dire come governo basta, non vogliamo più gli F-35, non so nemmeno se si possa fare, e metti un punto definitivo, perché non è possibile che diventa il governo delle sospensioni, il governo dei rinvii, sull'IMU, sull'IVA, sugli F-35 e sull'universo mondo, tutto rinviato, però non si capisce a quando, a settembre, ad agosto, eccetera. Anche sugli F-35 un rinvio, a me va anche bene che uno prenda una decisione però definitiva, che sia quella: non vogliamo più gli F-35, avremo dei danni, delle cose, non ce ne frega più niente. Benissimo, ma prendi sta decisione. No, adesso tocca al Parlamento decidere. Ma ti rendi conto, il Parlamento che decide sugli F-35? A parte che anch'io sono per l'eliminazione immediata di Parenzo. Mi scrivono. Mi scrivono, ti prego, sostituisci Parenzo con la meravigliosa Anselma Dell'Olio. Vabbè. Però l'ha pensato allo stesso modo poi. Ma non è detto. Matteo da Milano. Si è visto. Pronto, buonasera Parenzo. Sì. Volevo sapere una cosa, un paio di delucidazioni. Sì. Ma se danno il patentino alle prostitute, io sono un libero professionista, pago le tasse ormai da anni e pago parecchie tasse. Io posso scaricare la fattura? Ma io che cazzo ne so, Matteo, abbi pazienza, adesso non è che frequentazione di servizi. Ma ho capito, ma sì, certo che nei paesi normali dove c'è la prostituzione, che uno va là, eccetera, immagino che ci sia pure la fattura, non so se poi la possa scaricare. Adesso francamente è una frequentazione di servizi, volevo anche sapere, ma la danno anche alle nigeriane, per esempio, il patentino, perché secondo me sarebbe favorire il lavoro nero, per cui ma dipende, se sono regolari e possono lavorare, sì, perché no, scusi un attimo, Perché si favorisce il lavoro nero, vabbè, la c'entra, così. Pronto? Sì, chi parla? Caro Napoli? Sì, sono io. Sono Cruciani, come sta? Pronto? Sono Cruciani, siamo Cruciani e Parenzo dalla Zanzara, come sta? Mamma mia, io c'è chi sta peggio di me. Ma come sta? Quanto tempo, signor Napoli? Mamma mia, Osvaldo. Ma che piacere sentirvi, ma voi siete dei fenomeni. Ma che piacere, caro Osvi. Ma che fine hai fatto, Osvaldo? Come dici, scusa? Che fine... Ma dove cazzo eri finito, Osvaldo? Io non ma leggo veramente, più neanche... No, io sono qua a Roma, sono al gruppo. Ma che ma è gruppo? Non leggo più neanche la tua dichiarazione. Venerdì mattina vado a Unibus in un incontro insieme a Cooperlo. Perché mi volete rottamare subito? Ma che va? Ma non sei più in Parlamento, stai ancora lì a rompere. Ma cosa vuoi che ti dica? Ma perché? Ma io non sono in Parlamento, ma è anche giusto, dopo tre legislature, fare del male a qualcun altro. È giusto che ci sia qualcuno, no? Sei sempre sul pezzo, comunque, sempre sul pezzo, sempre lì a combattere come un leone. Ma no, ci sarà la mia vita questa, no, la vita è iniziata a 15 anni sul lavoro per me, certo. Se no che senso ha? Anche voi combattete tutti i giorni, eh? Noi sì, come leoni, io purtroppo, bravo, guarda, devo combattere su vari fronti, guarda, su vari fronti. Scusami. Ma una battaglia che devi fare contro il tuo collega Parenzo, questo non ci sono dubbi. Bravo, bravo, hai capito tutto. E lo devi fare tutti i giorni, perché se no ti uccide. No, ma non mi uccide proprio fisicamente, capito? Fisicamente, perché devo gestire una cosa che non è più gestibile. Vabbè, lasciamo perdere queste cose che sono cose... Se hai bisogno di aiuto, dimmelo, perché io da quel lato lì sono bravo, Però, Osvaldo, però io ti devo fare... Che si candida dappertutto. Ti devo fare un piccolo appunto, ti devo fare un piccolo appunto, per questo ti abbiamo chiamato. Allora, la cosa che è venuta fuori è questa, però adesso devi essere preciso, perché è una cosa che ti potrebbe mettere in seria difficoltà. Allora, pare che tu sia stato un numero tot di volte in vacanza alla Valtour, con la Valtour, con sconti vari. Domani esce un'inchiesta su Panorama, non so, forse c'è anche il tuo nome, credo. È vero o non è vera sta cosa? Ma no, ascolta, io sono stato in vacanza con la Valtour come vanno tutti, e quando mi hanno fatto lo sconto ho pagato. È un peccato questo? Perché tu quando vai a comprare come giornalista in un negozio che ti farà lo sconto del 30%, no, non, almeno... io lo sconto non lo fa, non lo prendo? Beh, è diverso, io faccio, a parte che a me non è mai successo, perché a me lo sconto del 30% come giornalista non me lo fanno, comunque alcuni sì. Vabbè. Ricordo, io ero stato iscritto all'albo dei giornalisti, ricordo che c'era la tessera che ti facevano lo sconto sull'Alitalia. Vabbè, ma quella è una libera scelta dei negozi o scusa, e quello cos'è? Quando tu vai a trattare una cosa ti chiedi il minimo, mi fa lo sconto, se ma glielo fanno te lo fanno. È diversa, no? Però la cosa, perché, ma perché, è diverso, perché tu, scusa, fai il politico o facevi il politico quando andavi alla Valtour, cioè è molto diverso. Cosa vuol dire, scusa, perché un politico è diverso dagli altri che chiedono, cioè che chiedono lo sconto? Ascolta, sì, per una... Osvaldo, un po' sì, un po' è diverso, dai. Osvaldo, è diverso, dai. Io non lo ritengo, io sono un cittadino come tutti, Beh, ho capito, però se tu vai come politico... Però io ti chiedo scusa, perché ti rivolgi a me anziché tutti questi grandi nomi? Perché poi a me addirittura si rivolgono a un fatto successo nel 2001. Allora, a me risulta che tu sei andato, domani credo che questa cifra non ci sarà, più di 10 volte dal 2001 in poi, più di 10 volte, tra cui una addirittura con un rimborso del 100%, cioè a gratis, questo si dice alla romana. Però, per carità, poi sono fatti vostri della Valtour. Ascolta, prima cosa, la Valtour è anche un'azienda privata, quindi non è che ci sia qualcosa di peccato, non è una... No, poi tu dici pubblica. Perché mi rivolgo a te perché c'ho un numero di telefono tuo. È quella degli altri, dei... Ma non ti preoccupare, lo facciamo pure con gli altri, non ti preoccupare. I grandi paperoni no, invece. Ma i grandi paperoni chi c'è, per esempio? Scusa, questi qua. Non lo so, io è stato quello che ho letto sui giornali, non lo so io. Grillo, Schifani, Alfano, quello è già uscito. Schifani, Alfano, eccetera, eccetera. Non lo so, di queste li dici tu, non li sto dicendo io. No, li dico io. Però ascolta, io ritengo logico, io ritengo corretto, onestamente, mi dispiace dovertelo dire, ma io non ho usufruito di niente. Io quello che devo, io pago quello che mi chiedono di pagare. Se devo pagare o che mi hanno fatto lo sconto, con tutto il rispetto, io non devo, perché devo... Vabbè, l'avrai chiesto, ma ho capito, ma abbi pazienza però, Osvaldo. Se uno fa il politico anche piuttosto in vista come sei tu, va alla Valtour, gli fanno lo sconto del 100%. No, uno... ma ascolta, lo sconto del 100% dov'è? Quello del Sestrer due notti a 40 km da casa mia? Beh, sempre 100% no, non ma che... non lo chiedo scusa, due notti al Sestrer a 40 km da casa mia, io ricordo benissimo. Ma ho capito, ma che vuol dire? No, sarà... non ho capito, ma se tu mi dicessi che mi hanno fatto lo sconto alle Valdive per 15 giorni, non mi hanno fatto pagare nulla. ti potrei ancora capire, ma due ma notti anche alle Maldive te l'hanno fatto. Due notti al villaggio, ma tu conosci il villaggio Valturni del Sestri? Sì, lo conosco, ma non sai se i miei cittadini ci ridono sopra avendo letto questo? Cioè, in che senso? Che è una baracca? Non ho capito. Ma che no, cos'è? Ma non è che è una baracca, ma quell'altro chilometro da Calasavia, abbi pazienza. Io, ma che vuol... io ricordo molto bene di essere andato là, no? Però non è bellissimo, non è una cosa bella che un politico si faccia fare uno sconto da un'azienda importante di viaggi per andare in vacanza, dai, su, non è bello. Io al Sestri non sono andato in vacanza. Se mi accusi di questo mi metto a ridere, ti lascio dire. Ma no, ma non è l'accusa, ma non è questione, noi non stiamo qui col coso, sto dicendo che siccome in questo elenco di persone, ovviamente, cari ascoltatori, non è che c'è solamente il nome di Osvaldo Napoli, ci sono il nome di altri politici, di non politici, addirittura io ho il nome qua di, forse ci sarà uno scambio merce, di Maurizio Crozza, oltre a Grillo che sarà domani la copertina di Panorama, giornalisti come Anna La Rosa, almeno così risulta, come... Addirittura Marcello Sorgi, con sconti vari, con 30%, 40%, 50%, 60%. Scusa, ma ti ripeto, ma non è un delitto avere lo sconto? No, non è un delitto, non è bello però, non è bello per uno che fa politica, secondo me. Ma non è vero, ma ti chiedo vabbè, scusa, d'accordo, non è vero, privata, un'azienda privata, io ti chiedo scusa, se vado in un'agenzia di viaggio... A un cittadino normale, compreso un deputato, non è che voglio difendere Marcello Sorgi. Ti fanno un piccolo sconto. Minimo sconto. Ho capito, ma qui due notti al Sestri Air, tu mi hai detto 100%, non è un minimo sconto. Sei andato a gratis due notti al Sestri Air con la Valtour, punto. Ma di là, ma ascolta, ma a 40 che io arrivo a casa. Ma che vuol dire 40 km da casa? Sempre gratis sei andato, ma che. Ma abbi pazienza, io arrivo a casa, io ricordo molto bene che mi hanno detto, ma rimanga qua, cosa stai a andare a casa, qua là su giù. Quindi vengo a dire, io ti capisco ancora di avessero fatto. Vedi, tu mi parli e lo dico seriamente, se tu mi dicessi che non mi hanno fatto pagare 20 giorni alle Maldive ma due notti al Sestri a 40 km da ho casa capito mia. Ma che vuol dire, ma se è il principio, ma non no, è tanto dai, ma non Parenzo lì, non hai nulla da dire, no. Parenzo, ma come no, sto cercando di dire a Osvaldo Napoli che su una cosa ha ragione, cioè che se i giornalisti hanno la convenzione con l'Alitalia e gli fanno lo sconto del 20%, del 30%, ciò non vuol dire... del 30%. Va bene, ma ti sto dando ragione, ti dico, se il giornalista che ha lo sconto sono cazzi dell'Alitalia. Parla bene di Alitalia anche quando c'è da parlarne male, questo è sbagliato, ma mi pare talmente evidente che sia così. Dopodiché, per quanto riguarda il politico, invece... La Valtour, tra l'altro, è mezza fallita, diciamo, ma comunque l'azienda, il fatto che un'azienda privata faccia regali ai deputati, un po' potrebbe insospettire, mi dice, ma allora perché no, lo regali fa? Regali no, sconti sì, regali no. Beh, sconti anche, guarda, io ho l'elenco, adesso ho un elenco molto dettagliato, 30%, 28, 29, 70, in alcuni casi meno, eccetera, chi più a chi meno, tu sarai andato 15 volte, altri sono andati meno, altri sono andati di più, comunque sconti di vario tipo, non solo ad Agadir, a Marrakesh, a Sharm el Sheikh, più volte, uno va là e si fa fare uno sconto normale come tutti i cittadini. Perché a un politico fanno il 40% e un altro fanno 15%? Me lo devi spiegare. Non te lo so dire, ascolta, chiediglielo loro. Ti ripeto, è un'azienda privata, non è un'azienda pubblica. Comunque, tu pensi di non aver fatto nulla di male? Penso che nessuno abbia commesso dei reati. No, ma i reati non c'entrano nulla in questo caso, niente, assolutamente. È una cosa, secondo me, sconveniente che un politico si fa fare uno sconto molto forte del 50%, se non addirittura gratis, da un'azienda privata per andare in vacanza. Uno ci va e paga, punto. Secondo me, però io non voglio dire niente. L'importante è che non ci siano dei reati, il resto, ascolta, non credo che ci sia nessun problema nella maniera più assoluta. Vabbè, se uno si fa fare un forte 50% di sconto perché si chiama non so come per andare alle Maldive, francamente, o per andare anche a Sestri, benissimo, cioè è un altro, cioè della famosa casta, è un'altra prova dell'esistenza della famosa casta, o no? Non ti so dire, ascolta, io non mi sono mai sentito una casta, quindi personalmente, ascolta, non mi sento una casta nella maniera più assoluta. Comunque lo sconto all'Italia e treni non esiste più. Grazie Osvaldo Napoli, no, grazie. Lo so. Ciao, grazie a voi, buon lavoro pubblicità, a tutti. Ciao. Ma perché una battaglia che devi fare contro il tuo collega Parenzo, su questo non ci sono dubbi. Lo devi fare tutti i giorni, perché sennò ti uccide. La Zanzara. Lei ronza un po' di qua, poi ronza un po' di là, e tu lo sai che prima o poi potrà colpire. non rilassarti mai. Lei non dà tregua, sai, finché non pungere tranquilla non sarà. Prenda atto che ormai è tutto finito. E stai senza pietà, questo è il rimedio per l'insetto. Siamo qui, 800 24 00 24, la Zanzara. Roberto da Milano, buonasera. Buonasera dottor Cruciani, buonasera anche al dottor Parenzo. Non con quella voce però, Roberto, alzi il tono, la prego, alzi il tono che sono le 20:34. Sì, sì, sì. Ok, niente, volevo solamente dire che lei ha detto una grandissima banalità. Ma spesso le dico le banalità, cui, sì, sì. Sì, ma nel momento in cui mi dice che la vita non è perfetta. Ho detto che non siamo in un mondo perfetto, dunque non si può pretendere che scompaia, che scompaiano le persone che cercano e che offrono il proprio corpo per ottenere dei vantaggi, non si può pretendere, non si può sperare che sparisca la prostituzione, che le persone non vendano più il proprio corpo, eccetera, eccetera. Le sta bene così? Sì, ma ripeto, è una banalità assoluta. È una banalità, e vabbè, sarà un uomo banale. Lei nel momento in cui vive senza avere un sogno di migliorare questo mondo. Senta, i sogni di migliorare il mondo ce l'abbiamo tutti. Cosa sta a vivere? Se lei vuole vivere di sogni, io vivo, non si preoccupi, vivo, non si preoccupi. Sì, ma bisogna avere dei sogni, bisogna avere. Benissimo, lei viva di sogni. Delle visioni un attimino più elevate. Elevate, sì, elevate. Sì, elevate. Se no, che cosa ci sta a fare al mondo? Sì, signor Kim, signor Kim, signor Andropov, no, ma... signor Pol Pot, cosa mi vuole dire ancora? Ma lui non vuole. Non vuole che parla, che fai? Resti lì, lui non vuole, resta lì, parla. Dico che i radio, amore mio, dico che i radio ascoltatori ha ragione, non è che lui dice che bisogna raddrizzare il legno storto dell'umanità, come non no, si dice questo. No, dice. Lui ti dice semplicemente che però non puoi neanche accettare, non puoi neanche, come dire, stare lì a dire vabbè, tanto il mondo gira così. Beh, non è questo, nessuno è contro la prostituzione, nessuno è contro, nessuno, neanche i magistrati. Quello che voi non capite, voi assoldati con la nuova, con la casacca di Berlusconi, voi, ma che casacca? Ma io non ho avuto mai casacca in vita, cioè, tua, in vita mia, non dire stronzate. Non dire stronzate. I tribunali di Milano non vogliono raddrizzare, non vogliono raddrizzare il legno storto dell'umanità. Ma lei, ma loro ascolta quello che hanno detto in tribunale, non essere banale e stupido. Allora, Roberto, dica. Grazie. Loro si occupano di reati. Sì, si occupano reati, di reati, certo. Reati, cioè, come bravo, un Consiglio democratico. Bravo, bravo, bravo. Il banal Parenzo, Roberto. Roberto, allora su. È quello che le ho detto, se. Purtroppo io ho un ritorno nel telefono, quindi continuo a risentire la mia voce. È un problema suo, non so, il dottor Parenzo, non so come sia collegato. Non ho sentito quello che lei ha detto a proposito. Vabbè, Luca da Roma, buonasera. Luca. Buonasera. Dica. Buonasera. Luca, su, veloce, forza. Sì, io volevo dire due cose. Innanzitutto volevo partire dal discorso che ha fatto prima la signora Marina Ripa di Meana, con tutti questi nomi già fastidiosissimo, che difendere Berlusconi in questo modo, dicendo che le ragazzine che vanno a casa sua a cercare un posto di lavoro è a dir poco deprovevole e non capiscono che lo danneggiano ancora di più lei e Brunetta e tutta l'Allegra Brigata. Ma non è questo il punto. È tutta l'Allegra Brigata. Ah, l'Allegra Brigata, sì. L'Allegra, certo. Brigata. Ma io in verità invece chiamavo per prendermela con Parenzo. Perché ha fatto questo nuovo programma? Ma sono cazzi suoi, sono cazzi suoi. Ma è una cosa schifosa, è uno scandalo, è un misto fra il becero, vabbè, il maestro, è arrivato il critico televisivo, su, e a lei non piace, vabbè, ma faceva soltanto una cosa fatta bene, faceva la Zanzara, invece adesso, vabbè, ma adesso sono cazzate. questi sono fatti suoi, su, adesso non dobbiamo qui metterci. Ma io vorrei chiedere a Parenzo se lui, sì, non ha fatto un po' la puttana per arrivare lì a sul Rai 3 dopo questa, la 7. Adesso caro Luca, adesso abbia pazienza, se vuole Parenzo risponde eccetera. Ora tutto, visto che lei non ha fatto il cuore dell'obbligo, però In realtà, però questo è il punto è questo, vorrei sapere. Ma il punto è questo, quale, che ha fatto la puttana, cosa significa? Qual è il punto, Luca? Ma perché se uno finisce a lavorare in un posto per forza, legato al culo? Io sono quello che voi avete sentito in tutti questi anni, sono la stessa persona, lei poi non mi conosce, perché lei mi conosce per quanto ha sentito, quindi il suo giudizio è legittimo, ma perché pensa che dietro il fatto che uno arriva in un posto c'è sempre qualcos'altro? Ma perché è così stupido? È molto semplice, perché voi con questo programma manifestate il fatto che sempre dietro quello che fanno gli altri c'è qualcos'altro, allora penso che vale anche per lei, Parenzo. Guardi che la dietrologia, io in vita mia non l'ho mai fatta, la sfido una volta a tirar fuori in questa trasmissione una dietrologia, tutt'altro. Vabbè, poi... I dietrologi sono quegli altri. Ma come quindi a lei non piace, a lei non piace, è legittimo che non le piaccia, ma va benissimo, non le piace, ma evviva l'aspetto venerdì sera, ma venga in studio a dirmelo, venerdì al Teatro delle Vittorie, certo l'aspetto vengo, lì. Vengo, la chiamo in diretta, c'è un numero che a cui posso chiamare? Ma in no, ma io l'aspetto, la voglio dentro il teatro, io la voglio in teatro, io voglio che lei... lasci nome, io adesso dico, dirò al teatro di farla entrare lei e tutti quelli che mi vogliono contestare o che non, a cui non garba il programma, voglio che voi dovete venire là, io vi prego, ma lo dico sul serio, io vi voglio soltanto, lì soltanto se Cruciani mi dà il permesso, se vi do, guardi, mi dà il permesso via Monte Zebbio le do anche l'indirizzo, sì, ma vuole il mio permesso, non conti un cazzo, aspetta Luca, ha la mia benedizione, esatto. Il mio permesso, si faccio dare dopo i riferimenti, ci penso io, grazie. Claudio D'Asti. Claudio. Ciao Cruciani, ciao Parenzo. Dica. Volevo ricollegarmi al discorso che faceva Parenzo ieri all'inizio della trasmissione, quando sì. Ti ho detto dovresti sputarti addosso perché hai votato. Vabbè, il Movimento 5. No, ma il problema è questo. Allora, io ho votato il Movimento 5 Stelle, non sono un grillino. Sì. E anch'io sono molto scontento di quello che sta facendo. Chiaro, il Movimento. Chiaro, sì. Però io vorrei che Parenzo si mettesse in testa chiara una cosa, che chi ha votato al Movimento 5 Stelle, non tutti sono grillini, ma lo hanno fatto per un semplice motivo, perché PD e PDL e gli altri sono invotabili, perciò l'alternativa in questo momento in Italia è o non votare, o votare in questo caso il Movimento 5 Stelle. Vabbè, adesso, poi vedremo. Però Claudio, sono invotabili per lei come lo erano per me, per carità, però non è che sono invotabili in assoluto, perché poi in realtà due terzi degli italiani, più o meno, adesso vado a spanne, hanno votato uno per il PD, uno per il PDL. Non è che si può pensare, come invece pensa Grillo, che uno ha votato perché ha un interesse dietro o perché l'informazione li condiziona, eccetera, eccetera. Io questa cosa non la pensavo prima e non la penso adesso, per cui non è che sono invotabili secondo me. Anche secondo me all'epoca, in quel momento, erano invotabili, può darsi che restino invotabili anche adesso, però non è che due terzi degli italiani sono rincoglioniti e gli unici così intelligenti che hanno scoperto un nuovo modo di fare politica sono quelli che hanno votato i 5 Stelle. Calma, calma, calma. La zanza, la zanza, la zanza, la zanzara stronza, che gira, che ronza, va zonzo. Oh, un tuo amico, Parenzo, un tuo amico è un professore di lettere al liceo Newton a Campo San Piero, provincia di Padova, cioè dalle tue parti, dalle tue parti, il quale dice, si chiama Franco Damiani, il quale dice che in realtà non c'è nessuna prova storica che siano state usate le camere a gas per eliminare gli ebrei, cioè non ci sono state le camere a gas. Professor Damiani, buonasera. Buonasera, ma mi scusi, stiamo cominciando male. Cioè lei non ha detto una cosa del genere? Avevo chiesto espressamente che si parlasse di una questione specifica, quella che... Beh, lei può chiedere quello che vuole, però poi qui ci siamo noi, caro professore. Comunque sì. Dica, di cosa allora, bisognava parlare? Io sono un insegnante, non sono uno storico, le questioni storiche avete fior di storici a cui potete chiederle, a partire da Carlo Mattogno. A me era stato partire detto, da? A partire da Carlo Mattogno, che abita a Roma, a me era stato detto che io venivo interpellato sulla questione specifica che mi ha visto protagonista. Ma sì, anche io... di quello, perché però tutto nasce nasce dalle sue idee, caro professor Damiani, non no, è che tutto... No, la correggo subito, tutto nasce dalla mia coscienza professionale. Sì, d'accordo, però dalle sue posizioni, io non sto dicendo che lei è un criminale, però perché altrimenti partiamo male. Lei, ha avuto dei problemi e continua a avere dei problemi nel suo insegnamento, mettiamola no, così. No, io non ho nessun problema nel mio insegnamento, nessun problema. Qualcuno sostiene che lei non dovrebbe più insegnare, mettiamola così, giusto? Allora, non è affatto, lei mi sta insultando, io no. Ho avuto 5... Ma perché insultando? Non lo dico io. Allora faccia il nome di chi lo dice, per cortesia, così passiamo subito alle denunce penali. Ho avuto 5 ispezioni tutte superate favorevolmente, ma l'ultima di queste risale a 8 anni fa, quindi io non ho nessun problema nell'insegnamento. Allora, è vero o no che lei sostiene che... Allora, scusi... Guardi, io non rispondo a queste domande, rispondo lei a non risponde su quello che mi era cioè lei non risponde lei non risponde sul fatto che le camere a gas secondo lei non sono state usate per eliminare gli ebrei. Questo lo chiederete agli storici, io sono solo no a lei, le sto chiedendo a lei, secondo lei le camere a gas io sono non, non sono stato chiamato per questo, sono stato lasci perdere il motivo per cui è stato chiamato. No, io non lo lascio perdere affatto. A me è stato detto che venivo chiamato per rispondere su di una cosa. Ma quale sarebbe questa cosa? Scusi, quale sarebbe questa? Io la sconosco questa cosa. No, non lo so, non lo so perché me l'hanno detto male, evidentemente. Perché mi avete chiamato oggi? Me lo dica lei. Allora, leggo qui, Corriere del Veneto. Quel professore negazionista lasciato in cattedra, i sindacati non insegni, trasferito più volte, il provveditore non compete a noi, negli ultimi 8 anni il ministero lo ha nominato 4 volte presidente di commissione per l'esame di maturità. Questo leggo. Dunque c'è una polemica intorno al suo nome, giusto? Io, no, guardi, Corriere del Veneto l'ho almeno letto, io so quello che ho scritto io. Vabbè, lasci perdere adesso quello che ha scritto lei. Esiste questa polemica? Sì. Io sono stato chiamato per parlare di questo, non di quello che ha scritto il Corriere del Veneto, che io non ho nemmeno letto. Sì, scusi, però professor Damiani, perché iniziamo così male? Cioè, è una cosa molto... Lei che vuole cominciare male. Ma è una cosa molto semplice. Lei, io le faccio una domanda molto semplice. È vero o no che per lei non c'è nessuna evidenza storica che siano state usate le camere a gas per eliminare le ebre? Io non le rispondo perché non sono stato chiamato per parlare. Lei non mi risponde perché lei sostiene questo e non ha non ha il coraggio di dirlo qui. Non ha il coraggio di dirlo qui. Che io non ho detto. Lei può attribuirmi soltanto quello che e allora dica che non ci crede, dica che non è vero. Io non rispondo a queste domande, chiedetelo agli storici, io non sono uno storico. Oh, c'era un programma precostituito per esterminare gli ebrei? Non rispondo a domande di questo, e l'avevo detto chiaramente alla persona che mi ha interpellato. Ma non mi risulta. Glielo dico io. Cioè, non mi risulta. Non risulta a lei, lei mi sta dando anche del mentitore. No, del mentitore, non si tratta di menzogne, adesso non esageri. Giriamo la cosa, giriamo la cosa. Come mai esimio come mai, virgola, esimio professore, virgola, virgola, attorno al suo nome ogni volta si scatenano delle polemiche inenarrabili a causa di supposte stronzate che lei dice? A domande sul fatto specifico. Ah, non, allora scusi, che viene a fa qua? No, me lo dica lei, siete voi che mi avete telefonato. Certo, l'abbiamo chiamata per rispondere su queste cose qui. No, a me è stato detto tutt'altro. Cioè che cosa? Lo sa benissimo, non faccia finta di non saperlo. No, non lo so, io so che la... Sul fatto specifico, sul fatto quale specifico che ha dato spunto agli articoli successivi. Qual è il fatto specifico, scusa? Lo sa benissimo. No, non lo so, lo dica lei. Lo dico io? Sì. Ma rispondo solo su questo, sia ben chiaro. Beh, adesso vediamo. Insomma. Nominato presidente di commissione al liceo Curiel di Padova. Sì. Io mi sono documentato sul liceo e in particolare sui programmi d'esame presentati. Sì. Nel programma di una classe ho trovato che gli studenti avevano partecipato a un laboratorio di storia intitolato Negazionismi, un problema storico e filosofico. Sì. In cui per quanto riguarda la Shoah c'era soltanto una relatrice, la signora Valentina Pisanti, che non è nemmeno una storica. Cioè, secondo lei io la facevo venire qui la zanzara per parlare di questo fatto specifico? Voi mi avete chiamato, non ho chiesto io di partecipare. No, secondo lei lo so. Mi avete chiamato. Benissimo, ma secondo lei io la a chiamavo. A me è stato detto che dovevo rispondere su questo e io su questo sono pronto a rispondere, non su altro. No, a me di queste cose qui del negazionismo può interessarmi ovviamente, però ci sono delle cose da spiegare alla base, cioè qual è allora la sua posizione, ma lei è un professore di lettere. Traffico. La zanzara. Vabbè, questo qua è chiaro che è un coglione, Parenzo, eh? È evidente che è un coglione questo qua. Adesso mi querelerà, no? Cioè, ma è un coglione per come si è comportato, perché uno non può dire io non rispondo su queste di queste cose, non rispondo a domande molto semplici, domande che peraltro per me sono scontate, no? Ma dov'è adesso il professore? Che ha fatto? È scomparso, sì, è scomparso. È scomparso il professore perché non ha coraggio di metterci la voce e la faccia su quello che dice il nostro professore. Sale in cattedra davanti a degli studenti e dietro una cattedra con il potere di quella cattedra che ha dice le sue, fa le sue riflessioni e non ha coraggio di venire a ripeterle qua il nostro professore, il come si chiama? Damiani, come si chiama professore? Damiani, sì, Damiani. Io conosco un solo Damiani che è era un grandissimo, non so se sia morto, non credo, un grandissimo regista di film sexy. Ma infatti io pensavo fosse quel Damiani lì. Damiano Damiani, il mito. Gennaro, provincia di Napoli. Professore, per me di professore Damiani, quello è un professore, il regista porno è sicuramente un professore, quello merita un rispetto assoluto. Non sarà, lo so. Gennaro, provincia di Napoli. Eccoci. Vada. Eccoci qua. Allora, mi riaggancio alla moglie di Ferrara. È una emerita deficiente, non so perché la fate parlare. Ma non è affatto deficiente, è una numero uno, combatte come una voglio messa. Dire, ma perché cazzo le deve dire per cosa dobbiamo ridere? Chi non ride per Berlusconi è scemo. Ma che sono queste convinzioni di essere... Se non siamo come loro, siamo stronzi, siamo pesti, non siamo proprio campati. Mandatela a fare in culo. cazzoni, non è che uno sta pieno di soldi e ha la ragione dalla parte sua, eh. Vabbè, ma non è che ha detto che tutti quelli che non la pensano come loro sono dei deficienti. Ha detto chi non vuole ridere allora non ride a quello che dice Berlusconi. Però abbiamo sentito quello che dice Berlusconi nei comizi, ma non fa ridere un cazzo. Non fa ridere un cazzo. E vabbè, lei non ride. Non lei non ride, quella ride. A me a tantissimi italiani non fa ridere. Questi mi sono convinti che chi non ride è uno sfigato, eccetera, eccetera. Ma che cazzo vogliono? Io tengo 40 anni e sto con una ragazza di 20 anni senza pagarla. Mi vuole bene, non c'è bisogno di pagarla. Cioè lei dice, nella vita ci sono pure quelli che trombano senza pagare, dice lei, no? Sì, a voglia. Io trombo sempre senza pagare. Non ha senso per me andare con una puttana, avere paura di una malattia. Ma perché? Vabbè, ho capito, però non è che quelli che ci vanno sotto degli sfigati. Ma se una se io non piaccio alla donna con cui vado, ma io non mi arrizzo, capisce? Non sto avendo l'idea. Non so lei, ma a me non piace andare con una donna a cui non piaccio. Vabbè, ma ho capito, però non bisogna nemmeno chi va a prostitute, a troia, non è mica da condannare, eh. Questo è essere pure maschi, capisce? Sto vecchio di 80 anni, ma che cazzo vuoi? Vabbè, se gli altri tutte le femmine che vuoi, chi se ne frega? Ci hanno pure rotto le palle, tutta l'Italia appresso al suo stronzo. Oh, Giacomo Urtis, chirurgo estetico, di nuovo nostro ospite, buonasera. Carissimi, buonasera. Caro Giacomo, beh, la tua voce è molto homosex, molto homosex, la tua voce è molto molto homosex, eh. Diciamo a fine serata, in fine serata un po' così. Come giustamente signor Paolo Liguori mi dice: Damiani non è un regista porno, un grande regista degli anni 70. Sì, faceva però credo iniziatore di una, no, di un filone, no, Parenzo, no, di un filone, credo di un porno soft, se non sbaglio, però magari se abbiamo sbagliato chiediamo umilmente scusa. No, ha fatto alcuni film, come dire, dove si. Ma non porno nel senso come intendi tu, no. Dove ci sono quei mucchi di quelle carni che si quelle orze. No, nulla di tutto questo, lì c'è un racconto, c'è un plot, c'è una storia, c'è passione, non è quella roba lì volgare, sì, dai, bravo ancora, non è quella roba là, è un'altra cosa, non è quella roba che guardi quella roba lì. No, è morto peraltro il 7 marzo, è morto il 7 marzo scorso il signor Damiani. Signor ecco, Damiani. Questa andrebbe fatta, ad esempio, questa andrebbe commemorata a livello nazionale, ad esempio, questo sicuro. Vabbè, no, forse c'è un altro Damiani, mi sbaglio con Damiano Damiani, un altro in realtà, quello c'è un altro Damiani, vabbè, lasciamo perdere. Urtis, ma la signora Pascale si è rifatta un po'? E lo chiede. A me che io non posso raccontare niente, lo sai come funziona. Ma come no, dai su, Giacomo, dai. È migliorata, vero, un pochettino? Sì, dai. Beh, sì, è migliorata. È migliorata secondo me. È l'area di Arcore che fa bene. È l'area di Arcore, dici, no? Però è stata tua cliente, diciamola tutta, Giacomo, dai. È un'amica, una carissima amica. Che tra l'altro, insomma, se ci ascolta, saluto. Salutiamo la Pascale, signora, la First salutiamo Lady. Salutiamo la Pascale. Siamo First Lady. Scusate, Giacomo, le hai messo le mani addosso, in senso, come dire, professionale? Oddio. Sì, no, ci diciamo. La vedo qualche volta così. È una cosa notoria, è una cosa notoria questa cosa qua, no? È stata già scritta, non è mai smentito, dunque si può dire. Sì, ho fatto qualche. Sono stato io l'artefice della nuova Pasquale, la New Pasquale, opera mia, o no? Sì, ma poi tra l'altro ultimamente non la sto vedendo, sai, dopo tutta questa bufera, sti casini, eccetera, non si vede spesso in giro, si è molto ritirata vita così, un po' a casa, ad Arcore. Beh, però magari a casa più. Urtis o no? Magari dice. Vabbè, ma quante volte è venuta da te? Diciamola tutta, dai, quante volte è venuta in clinica? Oddio, vuoi sapere tutto? Beh, certo, Giacomo, lo sai, no? Ma no, ma sai che io c'ho il segreto professionale. C'è il segreto, dunque anche se io vengo da te non lo possiamo dire. Anche se vengo da te non lo possiamo dire. Di te lo racconto, perché sei molto pubblico e quindi... Beh, pure lei, più pubblica di lei. Ma tu dici che ci vuole, mi devo fare un ritocchino? Ma no. Sì, ma c'è un po' di rughette qua, c'è un po' di rughette intorno agli maschio, occhi. Il maschio deve essere maschio, questi qua tutti rifatti, tipo Mickey Rourke, Stallone, il messo Stallone ormai non c'è più una faccia, è tutta una gomma, via. Via, dice, va bene così con le rughe così. Ormai è tornato il maschio, quello con un po' di panza, sono tornati i peli, non mi chiedono più di togliere i peli con laser i maschi, ultimamente è tutto un po'... tornato negli anni 70. Beh, è una tragedia per te, è una tragedia per te, però scusa, c'è meno clienti. Vabbè, gli faccio altro. Fai altro, dici, ma facciamo che altri trattamenti. Qual è la cosa più richiesta adesso nella chirurgia estetica? Negli uomini, gli uomini che chiedono in assoluto? Allora, gli uomini sicuramente un po' di liposuzione, nel senso vogliono sempre sembrare un po' più magri, perché soprattutto le maniglie, ecco, danno fastidio le maniglie. Ah, la pancia magari non tanto, ma le maniglie sì. Le maniglie sì. Sì. E invece le donne, soprattutto io, vengono da me per il sedere, insomma. Sedere. Come questo sedere. Queste cose orrende. Io non riesco a capire come uno fa a farsi il sedere, è una cosa terribile, cioè è un intervento difficilissimo. Poi tu sei capace? No, io lo faccio, non ho inventato questa tecnica che in 10 minuti senza punti o il sedere, non so se hai visto anche le Iene, ho fatto un servizio là, in 10 minuti facciamo un sedere così. Vabbè, comunque la quella cosa è l'effettivo tempo che quando l'hai vista ieri nelle immagini lì in Piazza Farnese a Roma, no? Come ti è sembrato? Ho fatto una bella cosa. Madonna. Dimmelo, ho fatto una bella cosa. No, sono rimasto un po' scioccato della sentenza, che addirittura. Vabbè, quello chi se ne frega, ma Giacomo, però appena hai visto là in piazza la Pascale, che hai detto? Ho fatto una bella cosa. No, carina. Al diavolo. Ciao, oggi un abbraccio. Oggi ho visto la Maristel, guarda, ti dico, oggi ho visto la Maristel. Ma come, non era in Svizzera la signora Polanco? No, è passata oggi a salutarmi, così. Mamma mia, sei amico di tutte le oggettive. Era molto dispiaciuta. Fra poco ti mettono in galera pure te. Devo chiudere, ci sentiamo la prossima volta. Ciao Giacomo. Ciao, un abbraccio, ciao. Chi c'è? Gennaro ha sparato quello che doveva sparare, Giovanni non c'è, Maurizio non c'è. Vabbè, ci dobbiamo sentire domani 18:30. Ciao, Damiano Damiani è un grande regista che ha niente a che fare col porno. Ci mettiamo in ginocchio, ci prostriamo, c'è un altro Damiani però del porno, ma noi io e Parenzo pensavamo solo a questo, a domani. Secondo lei Maria Berlusconi è di esserlo? Fare un passo in politica in questo momento. Se lo farebbe non farebbe un errore. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Ma chi è che deve sentirvi? Ma voi siete dei fenomeni. Radio 24. La passione si sente.